è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18:34 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Sentiamo i titoli del TG2. Maroni e Matteoli hanno annunciato che da marzo arriveranno i primi body scanner negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Venezia. La sicurezza, dicono, è la priorità. Egitto, strage di cristiani dopo la messa del Natale copto, 9 morti. Alcune fonti parlano di una vendetta di 3 musulmani per il presunto stupro di una dodicenne. Mala sanità, muore una donna in Toscana, per 2 volte al pronto soccorso. I medici non si accorgono della rottura dell'aorta, la macchina dell'attacco è fuori uso. Parla ai magistrati, la moglie dell'uomo ucciso a Modena da un sacerdote alla vigilia di Natale conferma che l'ha riconosciuto mentre entrava in casa, sempre più probabile un movente economico. Bene, studio aperto, i primi titoli, sentiamo. Nuova ondata di maltempo, forte rischio di nevicate da stasera su tutto il centro-nord, protezione civile in allerta, Piemonte e Liguria le regioni più colpite, domani scuole chiuse a Genova. Ditemi cosa ha ucciso mio figlio appena nato. Mala sanità, a studio aperto parla il papà di uno dei bimbi morti all'ospedale di Foggia e in Puglia arrivano gli ispettori del ministero. Mattia, 18 anni, è morto alla vigilia di Capodanno a Genova cadendo con il motorino in una buca di 14 centimetri. La procura è omicidio colposo, indagati i 3 responsabili della sicurezza stradale. Bene, eccoci qui, 18:36, 800 24 00 20. Ancora in ballo dunque il Partito Democratico, soprattutto sulla candidatura nel Lazio, oltre che in Puglia naturalmente, però ci si concentra in particolare sul Lazio, le possibilità di Emma Bonino che sono aumentate, diciamo la verità, nelle ultime ore, nonostante l'opposizione di chi? Naturalmente di Paolo Binetti, che già ieri aveva detto: se sarà candidata da Bonino io esco dal Partito Democratico. In realtà sembra non avere detto proprio così, non credo che tra gli elettori del Partito Democratico ci sia il panico per l'uscita di Paola Binetti, che oggi, durante una nostra amatissima trasmissione radiofonica da cui ogni tanto rubiamo qualcosa, che è Un giorno da pecora su Radio 2, ha detto: in realtà se sarà candidata la Bonino è il Partito Democratico che esce da me, non sono io che esco dal Partito Democratico. Se mi si presenta la Bonino, lei esce o non esce? Ti voglio dire che il problema non è in questi termini, perché nel momento in cui il PD candida la Bonino, sì, non è che sono io eventualmente che vado via dal PD. È il PD che va via da te. È il PD che è andato via da me, da tutta una... Sì, ma sì, non solo da me! La Bonino, qualunque cosa dirà, e siccome è molto intelligente, sicuramente dirà cose equilibrate nella, certo, sua campagna, ma qualunque cosa dica, la sua immagine, la sua icona resta quella delle grandi battaglie radicali, certo, fatte su fronti nei confronti dei quali il mondo cattolico si è sempre, globalmente, compattamente schierato dall'altra parte. Noi potremmo fare di meglio, dare vita ad una forza partitica, no, che rinnovi la politica grazie all'amore. Non solo ti do ragione, ti dico di più, ti dico: chi non la pensa così come noi non fa parte della Lega dell'amore, simbolo a il cuore della mamma. A proposito del partito dell'amore proposto, ma lo diciamo per scherzare naturalmente, dal presidente del Consiglio Berlusconi, c'è da registrare che cosa? Una uscita della potenziale candidata alla presidenza della Regione Lazio per il Partito Democratico, in realtà finora è candidata dei radicali, Emma Bonino. Che cosa dice a Repubblica TV la Bonino? Dice, ricorda anzi una cosa direi giusta: nei 2 anni in cui c'era il governo Prodi, dall'altra parte, cioè da parte del centrodestra, non mi pare si sia vista tutta questa predisposizione al dialogo e dunque all'amore. Per quanto riguarda il dialogo, insomma, adesso io ho vissuto 2 anni col governo Prodi, in cui l'attuale maggioranza, allora all'opposizione, non ha passato giorni, un giorno, senza gridare all'illegittimità del governo. Entrava al Senato tra una mortadella e cioè, scene si saranno, come dire, convinti al bon ton e alla educazione istituzionale, ne prendiamo atto e siamo anche riconoscenti, però insomma troppe lezioni bisognerebbe evitare di darle, perché io ricordo quei 2 anni di colpi bassi e tentativi veramente strabilianti e non degni di un paese. Cioè, in altri paesi uno vince per un voto, ha vinto e ci si rivede dopo un po' con grande lealtà. E beh, bisogna dire che la Bonino non ha tutti i torti. Nei 2 anni di governo Prodi, nonostante gli errori certamente della maggioranza all'epoca, non è che c'era il bon ton, la collaborazione, gli inviti alla lealtà istituzionale da parte dell'allora opposizione di centrodestra. È abbastanza convincente, secondo me, la Bonino, anche quando parla della situazione di Berlusconi, della giustizia. Berlusconi perseguitato oppure no? Se ne parla anche in questi giorni, soprattutto con riferimento alla vicenda Craxi. Sentite la Bonino. Perseguitato no, un dato di accanimento si può anche riscontrare, però devo anche dire che chi fa il Presidente del Consiglio ha più onori e anche più oneri. Lo dico per tutta la classe politica. Io credo che chi assume la responsabilità di una rappresentanza politica ha più responsabilità dei cittadini e ha anche più oneri. Sentite come si difende la Bonino anche dalle accuse che qualcuno nell'elettorato di sinistra rivolge ai radicali di avere votato insieme ad altri per il no all'arresto al sottosegretario Cosentino chiesto dai magistrati. Bonino. Il problema è che gli atti mandati dalla procura, probabilmente Cosentino è responsabile di molto di più, di altro, di non so cosa, quegli atti non consentivano scelte diverse, e io credo che la certezza delle regole, la certezza del diritto deve valere per tutti, non solo per me o per gli amici. Siamo quasi spesso in chiusura, anzi per gli avversari. E beh, insomma, anche qui mi sembra piuttosto convincente. 800 24 00 24, prima del dibattito adesso sui body scanner, dibattito secondo me assolutamente ridicolo, almeno quello sulla protezione della privacy, certamente non quello sulla utilità di questi strumenti. Magari tra qualche mese ci troveremo a dire che ce ne serviranno degli altri, perché nel frattempo i delinquenti che vogliono farsi esplodere ne hanno trovata una nuova da fare per aggirare l'ostacolo. Daniele Luttazzi, prima dell'inizio di questo dibattito, parlava in questo modo, sentite. Qual è la mia soluzione per ridurre le file ai check-in? È semplice, fate volare la gente nuda, fateci volare nudi, siamo pronti. Here, let the sunshine in, let the sunshine, siamo pronti. Dico questo perché a un certo punto io mi giro e vedo che stanno perquisendo una vecchietta da 5 anni in carrozzella. Stavano perquisendo una vecchietta di 85 anni in carrozzella, non poteva neanche camminare, come fare, sputarti, non lo so. Ora, io dico, una vecchietta di 5 anni in carrozzella, devi lasciarla passare, perché se i terroristi sono riusciti a reclutarla, meritano di vincere. E questo era Luttazzi, un assaggio di Vittorio Feltri che abbiamo raccolto ieri da Cortina, dove parlava. Perché Feltri a volte sa essere veramente cattivo, molto, ma molto peggio del sottoscritto, per esempio quando si rivolge a Renata Polverini e dice: io veramente non mi ero neppure accorto che fosse una donna. Sentite. Adesso per esempio hanno candidato nel Lazio un'amica di Fini che si chiama Polverini, e ho avuto anche una polemica con Daniela Santanchè, perché mi ha detto: no, ma è una donna, va incoraggiata. Ma io non mi ero accorto che fosse una donna, quindi non sono stato cavaliere. Non mi ero accorto che fosse una donna. Adesso, per carità, non sto qui a dare un giudizio estetico sulla Polverini, però tutto si può dire tranne che uno possa avere un'impressione diversa quando vede la Polverini in televisione. Il coming out di Feltri a proposito della politica. Feltri leghista, in realtà già si sapeva questo, comunque sentiamolo dalle sue parole, con le sue parole dalla sua viva voce. Allora, io devo premettere che ho simpatia per la Lega, quindi no, è giusto che la gente lo sappia, perché altrimenti dice questo fa finta di essere sopra le parti. Ma quali sopra le parti? Nessuno di noi è sopra le parti, siamo sotto, siamo accanto, ma difficile sopra. Quindi è bene che io chiarisca subito le mie posizioni. Feltri, leghista. Pasquale ci chiama da Genova. Sì, buonasera Cruciani. Allora, vorrei parlare di Casini, no? Del suo modo di fare politica, che sì, fa campagna elettorale adesso con il centrodestra, perché sostiene la Polverini. E prima l'aveva fatta con il centrosinistra. E nessuno mette in risalto, in pochi, diciamo, solo Radio Radicale ho sentito, che si può ritrovare magari in provincia col centro-sinistra, in regione col centro-destra. Sì. E nessuno lo mette in risalto questo fatto qua. E no, veramente ne parlano tutti, della politica del doppio forno, così si chiama in termine forno, tecnico. Bravo, ecco. Ne parlano tutti, Pasquale, non è vero che non ne parla nessuno. Io ascolto la vostra radio tutti i giorni, Radio Radicale, sono quelle le radio che sì, ascolto tutti i giorni. Ecco. E poi volevo dire una cosa per Travaglio, perché l'altro giorno non ho capito se le piace questa politica dell'UDC oppure no. No, assolutamente no. Lei però non è un elettore dell'UDC. No, io sono stato sempre diciamo centro-sinistra, che è un po', diciamo, lo dico chiaramente, un po' schifato. Però dicevo, speriamo che si riprendano la Binetti, l'UDC, visto che la Binetti adesso dice che no, veramente ha detto che è il PD a uscire da lei e non lei a uscire dal Partito Democratico. L'importante è che non stanno assieme, perché non possono stare come i diavoletti che escono dal corpo, no? Il diavolo del PD, diciamo, che esce dal corpo della Binetti. Ecco, infatti. E poi oggi ho sentito la conferenza stampa di Di Pietro, volevo sapere sì, cosa ne pensa lei della conferenza stampa di Di Pietro. Non so cosa abbia detto, ha detto che il PD si deve decidere a presentare i candidati. Infatti, perché ha ragione, secondo me ha ragione. Per quello dico che Di Pietro piano piano, a quanto ascoltando anche tutte le sere questa trasmissione, sento dire che alcuni elettori di centrodestra che votano Di Pietro meno peggio, come tanti elettori di centrosinistra come me che voteranno Di Pietro perché è il meno peggio alla fine. Non lo so qual è la valutazione sul meno peggio io che sono di centrosinistra sì, non voterò mai Berlusconi, perché non mi piace la sua politica, devo sì, dire. E non le piacciono nemmeno i leader del centrosinistra, e dunque vota Di Pietro. A parte che io vedo io sì Vabbè, tra tutti. L'unica cosa che volevo dire, l'ultima cosa, è che Bersani secondo me gli hanno scritto la data di scadenza, perché sono convinto, e poi semmai ci risentiremo, che passate queste elezioni qua darà le dimissioni. Vabbè, vedremo. Pasquale, la ringrazio. Mattia, provincia di Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Sa quanti anni ho? No. Ne ho 21, è contento di avere ascoltatori così giovani. Assolutamente sì. Ecco, io le faccio anche sempre un sacco di pubblicità fra i miei coetanei, perché mi piace molto. E, molto bene. Mi dica senta, però l'argomento di cui vuole parlare. Io studio giurisprudenza. Sì, dove? Alla Cattolica di Milano. Sì. E volevo fare un'osservazione sul fatto che io trovo particolarmente sbagliato che nelle regioni italiane sia possibile che i presidenti sì, si possano candidare più di due volte, cosa che non è fattibile né dal Presidente del Consiglio né dai sindaci dei comunelli sperduti nelle montagne con 800 abitanti. No, veramente il Presidente del Consiglio si può candidare anche 100 volte, Mattia. Si può candidare 100 volte, però non consecutivamente. Ma come no? Il Presidente del Consiglio innanzitutto non viene eletto da nessuno, ma è una prassi il fatto che ci sia da qualche anno che ci sia il nome scritto sulla scheda elettorale, ma non c'è nessun limite per il Presidente c'è il limite per quello che riguarda, ma nemmeno credo per il Presidente della Repubblica, in teoria potrebbe ricandidarsi anche due lui volte, non più di due volte. questo glielo posso dare per certo. Anche sì, okay, Mattia, ma lei dice comunque adesso, al di là dei casi singoli, sì, chi si può, chi non si può ricandidare, eccetera, il sindaco non, insomma, si può ricandidare più di due volte. Se tradisca una certa passione personale per il mio attuale presidente della regione, le dico che secondo me non è giusto, per non creare una sorta di potentati, per un ricambio generazionale, per vari motivi, che in comuni piccoli, con scarso valore, non sia possibile che i sindaci si candidino oltre due volte, e nelle regioni invece la cosa. No, ma sono d'accordo con lei, Mattia, sono d'accordo con lei, la ringrazio, perché anche secondo me le candidature decennali o ultradecennali rischiano di diventare delle monarchie assolute. Francesco da Siena, buonasera Francesco. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Ma stanno girando delle foto sulle prime uscite più o meno pubbliche di Berlusconi. Sì, le ho viste. Guardi, io non sostengo la tesi del complotto, della bufala, mi dispiace anche parlarne, a dire la verità. Però qualche domanda legittima me la faccio. Perché? Solo perché ci vedo, non perché faccio complotti. A prescindere dalle ferite che si spostano, perché dove sono i cerotti adesso, quando è successo il fattaccio si teneva la bocca, adesso il cerotto è quasi vicino all'orecchio, ma insomma, ma dov'è la sutura al labbro di cui aveva parlato il medico? E poi, per una frattura al setto, che senso ha quel cerottino sul naso? Io ho degli amici che giocano a calcio, se le facessi vedere in che condizione uno col setto fratturato. Magari mi sbaglio, io non sono un medico, però sarebbe interessante sentire il parere di uno specialista. Ma guardi, francamente il parere di uno specialista che non abbia toccato con mano il volto di Berlusconi mi sembra ridicolo, perché e soprattutto che non abbia visto le cartelle cliniche. Io non capisco cosa lei lascia intendere con questo intervento, cioè vedendo Berlusconi a volto scoperto, abbiamo le immagini che girano ormai su internet dappertutto eccetera, lei ha l'impressione che sia tutta una pantomima, tutta una farsa, tutta una messa in scena? Non mi spiega. Immagine dell'impatto della statuetta. Sì, ma lasci perdere adesso l'impatto, dove è stato, dove non è stato, alcune... La guancia non aveva veramente niente, e questo mi lascia un po' perplesso. Cioè, non ha niente oggi, dice lei? No, non aveva niente al momento dell'impatto, era proprio quando è uscito dall'auto, si vedeva che forse era l'unica parte della faccia veramente... mi sembrava in stato perfetto. Guardi, c'è un altro ascoltatore che mi ha mandato nel pomeriggio una mail in cui diceva: guardate le foto della prima uscita di Berlusconi, è la prova che in realtà l'impatto è stato molto meno forte rispetto a quello che ci hanno fatto capire, e poi io non credo al complotto, ma nello stesso tempo eccetera eccetera. Guardi, può darsi pure che abbia fatto, effettivamente le foto sembrano particolarmente pulite, ma è quello che ci ha detto l'altra sera anche Francesco Storace. Potrebbe aver fatto già un intervento che aveva detto che avrebbe fatto in Svizzera subito dopo la prima convalescenza. La ringrazio Francesco, grazie. Anna da Venezia, buonasera. Sì, buonasera. Ecco, sono una signora di 65 anni. Sì. Mi sono indignata moltissimo, mi scusi se parlo male, ma sono anche emozionata, perché ho sentito la frase che ha detto Feltri verso la Polverini. Io sono di sinistra, ho sempre votato sinistra, però mi indigno molto per quello che ha detto Feltri, per il fatto che se una donna non è rifatta con le tette al vento, con la bocca a canotto, non le considerano donne. Non capisco. Beh, adesso, per carità, Anna, Feltri non ha detto che vuole le donne solamente in un certo modo. Se ne è usciti in maniera un po' volgare nei confronti della Polverini, dicendo: non mi sono nemmeno accorto che fosse una donna. E dunque facendo pensare che secondo lui la Polverini è uno di quei maschiacci che vanno in politica e non sono nemmeno, e la cui femminilità è in discussione. Sì, insomma, non è gradevole, certamente, però non è che ha detto: a me piacciono solamente le donne rifatte. Comunque è straordinario passare dai 21 anni dell'ascoltatore della provincia di Milano ai 65 anni di Anna, che mi sembrano portati molto bene. La ringrazio. Luca da Brescia, buonasera Luca. Dica. Volevo esprimere un parere in merito alla candidatura della signora Bonino nel Lazio. Speriamo, da elettore di centro-sinistra, che il PD una volta tanto faccia una scelta coraggiosa. È una bella candidatura, dal punto di vista politico niente da eccepire, dal punto di vista personale. Può avere la stima di tutti. Speriamo che la sostengano. Vinca o perda, non importa, però si deve ripartire da figure di alto profilo. Mm. E chi meglio della Bonino. Beh, Luca, lei fa un ragionamento che non fa una grinza. Bisogna vedere naturalmente cosa si intende su candidatura di alto profilo. Alcuni possono pensare che non sia una candidatura di alto profilo, altri possono proporre altri nomi. Certamente nel Lazio il Partito Democratico è un po' in un cul-de-sac. Molti non vogliono correre perché temono di perdere dopo la ferma a Razzo. La Bonino ha scelto bene i tempi, si è proposta questa candidatura che sembra raccogliere consensi anche all'interno di alcuni cattolici del Partito Democratico. Non di tutti, naturalmente. Alla fine ce la potrebbe fare, eh? Farà altre scelte. È in politica da quanti anni da Bonino? No, tantissimo. Non ha mai avuto scandali alle spalle, ha sempre avuto una linea politica coerente con se stessa e con le sue ideologie. Da qualche parte il Partito Democratico deve ripartire a ricostruirsi un'identità. Va bene, Luca, la ringrazio. Valerio ci chiama da Roma, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Senta, io volevo intervenire riguardo il body scanner. Ho chiamato perché insomma ho avuto un'esperienza lavorativa abbastanza lunga nel settore proprio aeroportuale, nello specifico di Roma, quindi so benissimo come si lavora in quel settore e come vengono fatti i controlli. Ci sarebbero molte cose da dire, ma giustamente gliela faccio breve. Immagini che prima del controllo, body scanner o manuale che sia, ci sono dei momenti anche per diverse ore dove si accalcano persone che possono raggiungere i 500, le 600 unità. Immagini che un vecchio 747 a bordo ce n'è circa 400 di persone, in uno spazio di 200-300 metri quadri ci sono, con tutti i vetri, i neon, specchi, spazi pubblicitari e tutto quello che c'è in ambito aeroportuale, circa 500-600 persone sono ammassate. Fino a quel punto non c'è nessunissimo controllo. Una persona può essere lasciata fuori dal terminal, arrivare in quello spazio, mettersi al centro del gruppo di persone che sta aspettando di fare il controllo sicurezza e farsi esplodere. In quel caso non c'è nessuno, e sono guardi che una distanza di circa 100 metri. Sì, no, ma lo so. Sarebbe anche difficile eventualmente farlo. Io mi ricordo che a Bangkok i controlli si facevano anche per gli ospiti che accompagnavano i passeggeri subito all'entrata nel terminal, ma questo parliamo di circa 20 anni fa. Per quanto riguarda i controlli del bagaglio, immagini che un bagaglio da stiva, un detonatore che può misurare tra i 3 e i 5 centimetri circa all'interno di una Samsonite, nello specifico di una donna, viene cercato in circa 5 secondi, 6 secondi da una persona che tramite un monitor, chiaramente, che a volte lo fa anche per 5 o 6 ore continuative. Lei mi sta dicendo che se uno vuole fare un attentato non c'è body scanner o altro qualche ingegno che tenga? No, forse il body scanner può farlo, può risolvere il problema del controllo manuale, anche perché toglierebbe di mezzo molti ragazzi giovani, inesperti, che se la vedono in giacca e cravatta non la controllano perché suppongono che appunto essendo in giacca e cravatta lei non può essere un terrorista. E però addirittura il bagaglio da stiva viene controllato, le ripeto, lei immagini una borsa di una donna. Sì, no, ho capito, adesso Valerio dobbiamo dare la linea al giornale radio TG3. Bersani, confronto da subito sulle riforme, ma niente tsunami sulla giustizia. Schifani, la prima parte della Costituzione non si tocca. Regionali, nel Lazio il PD non chiude ad Ema Bonino, l'UDC con Renata Polverini, Di Pietro Bersani decida sulle alleanze o andremo da soli. L'attentato alla procura di Reggio Calabria, vertice con Maroni Alfano, falso allarme bomba nell'aula bunker, era solo un petardo. Obama svela il rapporto sul fallito attentato di Natale, sarà uno shock, dicono fonti dell'amministrazione, Yemen caccia d'Al-Qaeda. Maltempo, pioggia e neve incombono sul fine settimana sotto osservazione il Tevere, domani scuole chiuse a Genova. Protestano i dipendenti Omnia, da mesi senza paga e denunciano speculazioni nella cessione dell'azienda, nel 2009 triplicata in Italia la cassa integrazione. Balotelli chiede scusa a Verona dopo lo sfogo di ieri, ma non mi scuso con chi mi fischia, la vicenda senza fine di un italiano con la pelle nera. Il 5% degli italiani sono schiavi dello shopping, in aumento anche gli uomini. È una malattia dell'anima, racconta una di loro. Va bene, avete sentito l'odissea infinita di un italiano dalla pelle nera, con riferimento a Balotelli. Andiamo a Sky TG24. Più uomini contro l'andrangheta, vertice contro le cosche a Reggio Calabria. Body scanner parla Maroni, a marzo i primi a Malpensa, Fiumicino e Venezia. Attentato fallito, il rapporto shock di Obama, i servizi sapevano del nigeriano. Riforme, Bersani apre al dialogo ma avverte no alle leggi ad personam. Berlusconi, ecco le foto senza bende, in Provenza la prima uscita del Premier. Giornata del tricolore, messaggio di Napolitano, è il simbolo di unità e democrazia. Foggia, doppia inchiesta sui neonati morti e il Ministero manda gli ispettori. Maltempo, sarà un weekend da brividi al nord, sotto controllo il Tevere a Roma. Neve e gelo, Gran Bretagna in ginocchio, trasporti in tilt e Eurostar ancora bloccati. Applausi provocatori, Balotelli multato, caos Torino, giocatori aggrediti nel locale. Eccoci qui, 1919 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Direi che una delle frasi del giorno, ho diversi messaggi qui davanti, quant'è volgare Feltri eccetera eccetera, è questa, pronunciata ieri a Cortina dal direttore del giornale a proposito della candidatura nel Lazio della Polverini. Naturalmente uno se la può prendere con la Polverini sull'Universo Mondo, si può sostenere naturalmente, come dice Feltri, che è una sorta di Epifani in gonnella, però cosa c'entra la femminilità della candidata alla presidenza della regione Lazio, Feltri? Adesso per esempio hanno candidato nel Lazio un'amica di Fini che si chiama Polverini, e ho avuto anche una polemica con Daniela Santanchè, perché mi ha detto no, ma è una donna, va incoraggiata. Ma io non mi ero accorto che fosse una donna, quindi non sono stato cavaliere. O non lo sapeva, cosa di cui dubito naturalmente, oppure è una battuta pessima, diciamo la verità. Dobbiamo registrare che Feltri non la pensa come Marzullo. Un anno e mezzo fa intervistava la Polverini, sentite. Un mestiere difficile, come è stato difficile siglare, credo, l'accordo per quanto riguarda l'ultima storia che le cronache, ma non solo le cronache, ci hanno regalato, sto parlando dell'Alitalia. Lei è una bella donna, ha un bel fisico, avrebbe potuto fare l'hostess, sì. Sicuramente. L'ho detto anche a Berlusconi qualche settimana fa, scherzando. E allora? E allora invece ho deciso di fare la sindacalista. Vabbè, insomma, da hostess, secondo Marzullo, a una che non si vede nemmeno, non si capisce neppure se è femmina oppure no, come sostiene Feltri. A me la battuta di Feltri un po' ha ricordato naturalmente quella ormai diventata famosissima, Berlusconi Bindi. Sento parlare la signora Rosi Bindi. Sì, dice che è gravissimo, è sempre quello che lei sta dicendo. È sempre più bella che intelligente. No, la prego, la Presidente, la prego. No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con Presidente, persone che sono sempre cortesi con me. Presidente, io quindi sono una donna non che non è a sua mi interessa nulla di quello che lei eccepisce. Sono una donna che non è a sua disposizione e prego, ritengo molto grave. Punto di vista. La prego, le la prego, affermazioni vi prego che lei questa sera ha fatto. E va bene, lei la pensa così, gli italiani, noi potremmo fare di meglio. Dare vita ad una forza partitica, noi, che rinnovi la politica grazie all'amore. Non solo ti do ragione, ti dico di più, ti dico... Chi non la pensa così come noi non fa parte della Lega dell'amore, che come simbolo ha il cuore della mamma. Chi non ragiona così come noi farà i conti con la Lega. Ditemi voi se c'è aria di partito dell'amore, della concordia, quando il direttore del giornale Vittorio Feltri spara non solo le bordate che abbiamo sentito sulla Polverini, ma delle vere e proprie mitragliate, bombe ancora su Gianfranco Fini. Come questa, per esempio, sentite. Nessuno sa che cosa abbia in testa Fini e comincio a sospettare che non lo sappia neanche Fini. Assume degli atteggiamenti completamente incomprensibili. Completamente incomprensibili. Come ha scritto l'altro ieri, ha poche idee ma confuse. No, poveraccio, io mi rendo conto che lui si trovi in un momento di difficoltà. E poi altra smitragliata, altra bomba. Per esempio, quando parla dei privilegi da presidente della Camera. Fini non volle entrare nel governo perché aspirava a un ruolo istituzionale, voleva fare il presidente della Camera e fu accontentato e fu eletto presidente della Camera e per 5 o 6 mesi mi sembrò che fosse molto contento, non faceva dichiarazioni, non era ostile, era proprio felice finalmente su quella bella poltrona a Montecitorio con un appartamento molto grande tutto a sua disposizione, camerieri, maggiordomi, automobili, insomma non è male. Voi mi capite che per uno che non aveva mai lavorato trovarsi con tutto questo po' di roba... Beh, insomma, questo è pesante, avete sentito, no? Uno che non ha mai lavorato, che si trova adesso a gestire le segretarie, eccetera, eccetera, ancora bombe. Questo signore fa il presidente della Camera, adesso ogni volta che parla c'ha la telecamera in faccia, quindi per quante stupidaggini dica vengono enfatizzate e questo disturba. Capisce come avere in casa uno che se tu mangi le tagliatelle vuole i ravioli, se mangi i ravioli vuole le tagliatelle. Io so che poi uno alla fine... No, scusate queste... Noi potremmo fare di meglio, dare vita ad una forza partitica che rinnovi la politica. Grazie all'amore. Non solo ti do ragione, ti dico di più, ti dico... Chi non la pensa così come noi non fa parte della Lega dell'amore, che come simbolo ha il cuore della mamma. La Binetti cosa mi dice, cosa mi combina? Secondo lei, se dovesse essere candidata la Bonino, non è che sarebbe lei a lasciare il Partito Democratico, ma il Partito Democratico a uscire dal corpo della Binetti? Se mi si presenta la Bonino, lei esce o non esce? Ti voglio dire che il problema non è in questi termini, perché nel momento in cui il PD candida la Bonino, sì, non è che sono io eventualmente che vado via dal PD. È il PD che va via da te. È il PD che è andato via da me, da tutta una... Sì, ma sì, non solo da me! Non solo da me, chissà da quanti elettori cattolici, lascia intendere la Binetti. Qual è il problema della Bonino secondo Binetti? Detto che secondo me il peso elettorale di Paola Binetti all'interno del Partito Democratico è quasi nullo e non vedo perché un partito importante debba preoccuparsi di un singolo deputato. Ho detto con grandissimo rispetto di Paola Binetti e delle sue posizioni, naturalmente. Qual è il problema secondo la Binetti che ha la Bonino? Uno dei motivi per cui non va bene è perché è anticlericale, sicuramente. Ah, ecco, perché mi sembrava di aver capito. No, sicuramente. No, qua e là. Mi sembra. Vabbè, ma allora chi? Se non lei, chi? Ma ci sono tante. Per esempio, Francesco Rutelli aveva lanciato come candidatura quella della Lanzillotta. Francesco Rutelli. Vabbè, poi, Lanzillotta. Lanzillotta è stato ministro nel governo precedente, è una donna, è una donna, certo, direi, con un curriculum di tutto rispetto sotto il profilo politico e potrebbe anche essere una persona. Andrebbe bene. È una persona laica ma non anticlericale o laicista, è un, certo, tipo di candidatura. L'anticlericalismo della Bonino. Pino ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera, io dica. La mia domanda è più che domanda, è una considerazione. Si tratta di questa diatriba, di questa polemica costante tra Feltri, il direttore del giornale, e il presidente della Camera. Io sono un elettore di destra, del centrodestra, non di destra, e sono veramente costernato, dispiaciuto di questo atteggiamento. Io non riesco, leggo spesso, insomma, quasi quotidianamente il giornale e vedo in Feltri il direttore una persona acuta, intelligente, molto perspicace, però mi sembra che si stia tirando la corda più del dovuto. Non è il momento, di fronte anche a quello che è successo a Milano, a quello che succede nel paese, di inasprire il confronto. Forse ci sono anche delle questioni di carattere personale, non lo so, però credo che Feltri dovrebbe cercare di frenarsi. E siccome quel giornale appartiene a una proprietà a cui il presidente, il fratello del presidente, siccome pur rispettando la libertà dei giornalisti bisogna anche cercare di attenuare e di abbassare i toni, non si può andare a costruzione di un'alternativa di riforme con questo stato d'animo di attacco quasi quotidiano che sta diventando personale, che poi Fini abbia fatto delle considerazioni un po' lungimiranti, ha delle posizioni molto diverse da quello che era, che lui Feltri chiaramente la sta mettendo sulla questione personale, non ha né arte né parte, vabbè, ma quanti politici, quanti uomini, vabbè, non fa solo queste considerazioni, no, non hanno un mestiere, sì, sono creduti, però Pino non è che Feltri fa solo scusi un attimo, comitati, diciamo, nei comitati federali, nei partiti, scusi Pino, non è che Feltri fa solamente delle considerazioni di questo tipo personale, dice anche che spesso con alcune posizioni che ha assunto Feltri si è messo fuori dalla linea del PDL, almeno secondo Feltri. La ringrazio. Aurelio da Como, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo solo il suo parere sulla politica che sta facendo Casini e l'UDC. Sono allineato con l'ascoltatore che ha chiamato prima dicendo che è abbastanza incomprensibile questa politica che sta facendo Casini da una parte con il PDL, dall'altra col PD, eccetera. Per cui credo sia l'espressione della vecchia politica. Di fare di tutto per essere dentro, di tenere un posto, tenere una poltrona. Come elettore, come persona della strada, come persona normalissima, mi sembra una cosa abbastanza inconcepibile. Non si riesce a capire. Ma guardi, Aurelio, io penso che l'UDC sia all'opposizione e certamente Casini ha l'obiettivo di aspettare il dopo Berlusconi. Secondo lui ci sarà un grande rivolgimento nella politica italiana, magari anche un cambio delle regole elettorali che possano rimettere l'UDC in gioco, secondo, diciamo, secondo regole un po' diverse da quelle attuali. Bene, 19:32 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Riprendiamo con l'ascoltatore da Roma, Valerio, che ci parlava della vicenda dei body scanner. C'è ancora? Sì, pronto. Allora, Valerio, concluda il suo ragionamento senza andare troppo sul tecnico, eccetera, perché altrimenti non capiamo nulla. Dico. No, era solamente una premessa, l'ho detto, ci sarebbero molte cose da dire. Però giustamente a un certo punto lei ha fatto una considerazione in base a quello che io dicevo. Allora, suppone che poi non ci sia un sistema. No, i sistemi ci sono. E il body scanner sicuramente toglierebbe di mezzo quel fastidio dei controlli fatti a mano che non risolvono assolutamente nulla, e tant'è vero che poi periodicamente viene dimostrato anche da Striscia la Notizia, da altre trasmissioni, e qui anche nei casi più seri come è successo adesso negli Stati Uniti. Però sicuramente non è solamente quello, e come al solito, ma poi vi troverete anche ad affrontare questo problema tipicamente italiano anche in altri argomenti che affronterete stasera, sì, ci si concentra sulle cose che poi assolutamente non sono assolutamente importanti, cioè la privacy. Io non capisco il body scanner, dove effettivamente non c'è un contatto diretto tra l'operatore e il passeggero, dove viene violata la privacy? No, ma infatti quello della privacy è una cosa ridicola. La cosa importante, si parla prevalentemente di questo. Poi c'è chi mette in ballo anche la questione della salute, altra cosa ridicola assolutamente, secondo me, nonostante le proteste di qualche medico che ci ha chiamato. E poi c'è la questione dell'utilità in realtà di questo strumento, e su questo si può ragionare, perché effettivamente potrebbe essere obsoleto tra qualche mese, no? Il controllo come viene fatto oggi, e soprattutto da chi lo fa oggi, sì, mi creda, è assolutamente inutile. Basta essere un po' scaltrini, organizzati, intelligenti, e si riesce, anche perché, apro e chiudo parentesi, noi abbiamo sempre saputo che c'era l'opportunità di poter creare esplosivi con oggetti in commercio. Quindi questo ci veniva detto dagli addestratori, quindi non è una cosa che è stata scoperta, no, certo, oggi, certo, che si può. Comunque lei da operatore del settore ci sta dicendo che attualmente, per come viene organizzato il controllo, per il tempo che ci si dedica, eccetera eccetera, per il tipo di operazioni che vengono fatte, insomma, non dico che è un gioco da ragazzi, però non è difficilissimo organizzare, esatto, portare un ordigno da ragazzi, ma da professionisti si può fare. Le do l'ultimo elemento, poi sì, se vuole possiamo anche chiudere la conversazione. Immagini che al di là, come diceva Luttazzi, che si faceva la perquisizione alla signora di 85 anni, si tolgono le forbicine. Consideri che poi nel ristorante, oltre il controllo, si può tranquillamente pranzare o cenare con i coltelli in metallo. E quando è stata evidenziata questa cosa, nessuno ha mai posto rimedio. Quindi erano gli stessi operatori poi a sentirsi ridicoli, a dover togliere le forbicine, per dire le forbicine o altri strumenti assolutamente inutili, poi per poter fare un sabotaggio ad un aereo, quando poi alle proprie spalle si poteva tranquillamente prendere un coltello in metallo e farlo sparire, perché era un self-service e quindi nessuno si sarebbe accorto poi che il coltello veniva portato a bordo, dove... Comunque ci sono vari metodi, ma ripeto, va bene. Sono solamente a bordo. Grazie. Greta da Varese, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo dirle, lei è romano, vero? Sì. Certo che sono. Ma romano. È da tanti anni trapiantato a Milano, no? Per lavoro, giusto? Sì. Però è laziale anche, no? Greta, cosa c'entra adesso tutto questo con le cose di cui stiamo parlando? Abbia pazienza. Parliamo delle elezioni regionali del Lazio e quindi sì. Io le chiederei molto, in maniera molto così trasparente, sì. E ricordando anche il suo passato di ex radicale, ovviamente, se lei dovesse votare a questa tornata. Ma non ho la minima, non ne ho la minima tra la Bonino e la Polverini. Non mi sono posto il problema. Faccia un outing anche lei, fa tanto di moda. Greta, non mi sono posto il problema, glielo dico molto sinceramente. Allora va bene, lasciamo perdere. Ascolti, un'altra cosa. Le parole su cui lei si è tanto entusiasmato della Bonino stasera... Non mi sono entusiasmato, ho detto che mi sembravano condivisibili, sì, non tutte naturalmente. Un passaggio in particolare che a me ha colpito molto è stato quando la Bonino ha detto: chi ha più potere ha più oneri. Queste stesse identiche parole, io posso andarmi a cercare il testo in Google... Le ha dette Santoro. Sì, non so con riferimento a cosa, però a un intervento a gamba tesa del Premier in trasmissione, quando ne ha detto tutti i colori contro chiaramente le trasmissioni di Rai 3. Quindi lei ha condiviso le parole che ha detto Santoro. Sì, no, ma la frase chi ha più potere ha più oneri può averla detta anche il diavolo in persona Io apprezzi la Bonino e la consideri una candidata che potrà avere delle preferenze bipartisan allo stesso modo come le potrà avere la Polverini, tant'è vero che Luca Telese ha dichiarato che la voterebbe, giusto? Potrebbe votarla, sì. La terza cosa, per rimanere sempre Ho capito questa cosa di Santoro, cioè non ho sì, capito. No, dico, lei ha condiviso delle cose che ha detto prima. Perché qual è il problema se condivido? Qual è il problema se uno condivide delle cose che dice Santoro? Non ho capito. Sapendo qual è il suo grado. Ma questa di è la sua mania di classificare, evidentemente lei ha la mania di classificare le persone, dunque le sembra inconcepibile. Allora, evidentemente anche le sembra inconcepibile che io possa essere d'accordo con una frase che ha detto Santoro, a parte che non l'ho mai sentito apprezzare Santoro. Io non ho detto che apprezzo Santoro, lei mi sta dicendo la stessa frase, chi ha più potere ha più oneri, l'ha pronunciata anche Santoro. Benissimo, prima che c'è il copyright su una, chissà quante persone prima di Santoro l'avranno detta questa frase, non è necessariamente lui. Ma Bonino ha argomentato nella stessa identica maniera e chiaramente il tono che ha usato Santoro non è molto importante questa cosa qui. La frase chi ha più potere ha più oneri sembra abbastanza ma comunque è condivisibile. Altra cosa, per rimanere sempre in tema, allora Feltri ha dichiarato apertamente di essere dalla parte dei leghisti e lo dimostra appunto l'apprezzamento che ha fatto parallelo a quello del Premier sulla riguardo alla Polverini. Ha detto di avere simpatia per la Lega, ma Greta, lei ha la mania di classificare le persone. Allora, cioè le vorrei leggere due stralci di articoli apparsi sull'Indipendente nel 93, all'indomani di Mani Pulite, dove Feltri, come tutto il popolo italiano, o quasi tutto, era dalla parte dei giudici che andavano protetti, che questi politici che cercavano riparo per scansare la galera. Ma le sappiamo queste cose, le sappiamo bene. E allora di che cosa stiamo parlando? A proposito di che cosa stiamo parlando? Dell'attendibilità di Feltri. Secondo lei non è attendibile un volta questa bandiera, volta ha detto volta che Gabbana. Sta dalla parte della Lega, di sicuro della Lega ha la stessa finezza che ha avuto Castelli in trasmissione quando ha rincarato la dose di insulto alla signora Bindi, che tra l'altro è la vicepresidente della Camera, oltretutto. Va bene, grazie a lei. Fausto da Modena, buonasera. Sì, buonasera, vorrei parlare dei body scanner e sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, il quale diceva che questi controlli in realtà sono inutili, perché ad esempio non ci vorrebbe niente a mettere un esplosivo su un treno dove non esiste nessun controllo, oppure in un supermercato in un sabato pomeriggio dove ci sono migliaia di persone. quindi tutti questi controlli in realtà servono soltanto a raccontare delle cose all'opinione pubblica che non servono a noi. Sì, però pensiamo se non ci fossero questi controlli negli aeroporti. Sì, certamente, i controlli ci vogliono, però in realtà, come diceva l'ascoltatore precedente, se uno vuole fa quello che gli pare, insomma, mette una lasciamo perdere i treni, un altro discorso, stiamo parlando degli aeroporti, però non stiamo parlando dei treni, è un altro discorso. In Spagna però ho visto che anche sui treni vengono fatti dei controlli sui bagagli con i raggi X come vengono fatti negli aeroporti, perché là c'è stato un attentato qualche anno fa all'aeroporto, alla stazione di Madrid, quindi volevo dire sì che i controlli certamente ci concorrono. Però se uno vuole mette una bomba un po' dappertutto, insomma, ci vorrebbe un po'. Ma insomma, adesso l'ascoltatore di prima non è che ha detto proprio così, insomma. Non ha detto proprio così, non è che sì e lei ci mettiamo d'accordo per fare un attentato, domani facciamo un attentato all'aeroporto di Roma, non è proprio così, eh. No, però voglio dire che se uno mette una valigia con dell'esplosivo su un treno ad alta velocità, cioè non esiste nessun controllo, quindi il risultato alla fine è lo stesso, sono migliaia di persone che magari per carità, non voglio sì, Fausto, però non è che in giro ci sia tutta questa voglia di mettere le bombe sui treni. No, ma infatti lo per so fortuna, per cui poi c'è anche il lavoro di intelligence, certamente bisogna sforzarsi soprattutto nel potenziare quello. Mettono in prima pagina c'è stata una bomba da questa parte, bomba dall'altra parte, la gente si spaventa, che in realtà anche a me non sembra il caso proprio di seminare il panico tra la gente, insomma. Però se uno vuole lo fa, ecco, questo è il mio discorso, insomma. Va bene, grazie. Luciano da Roma, buonasera. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Dica. No, io volevo dare, un mio quadro della situazione, per quanto possa essere opinabile, per quanto riguarda Gianfranco Fini. Io sono dell'opinione che lui, secondo me, voglia prendere i consensi da parte di quegli elettori del Partito Democratico cosiddetti insoddisfatti, magari guardando al futuro, quando magari Berlusconi non si candiderà. Non so, Luciano, che Fini guardi agli elettori del Partito Democratico, adesso questo francamente mi sembra fantapolitica. Che significa guarda agli elettori del Partito Democratico? Fini il suo gioco politico, esatto, evidentemente lì sta stretto a fare il Presidente della Camera, ha fatto una sua fondazione, entra nella discussione politica quotidiana su diversi temi, in particolare l'immigrazione e altri. Dice la sua, ha creato un suo gruppo di parlamentari che fanno anche battaglia dal punto di vista legislativo, o comunque tentano di farla, vedi la legge sull'immigrazione, certamente su alcuni temi ha delle posizioni molto diverse da quelle del corpaccione del Partito della Libertà. Detto questo, mi sembra che siamo nel campo della politica, politica in generale, diciamo di sì. Io lo sai che cosa le volevo ricordare, non so se le ricorda, tempo fa ci fu un intervento alla sua trasmissione di Vittorio Sgarbi, quando in pratica la questione era dopo che Fini fece il suo intervento per quanto riguardava, andò a quella scuola dove c'erano degli immigrati e disse: chi vi dice che voi siete, non siete italiani perché avete delle origini magari extracomunitarie, è uno stronzo. E Sgarbi intervenne alla sua trasmissione e sempre riferendosi alle sue famose vicende processuali di Sgarbi che riguardavano il risarcimento del danno che lui aveva detto stronzo a quella professoressa, disse: beh, tra virgolette, diciamo che Fini è proprio lo stronzo, tra virgolette, per eccellenza, perché con il suo atteggiamento viene guardato in qualche maniera bene dagli elettori di sinistra, perché così facendo allora? questi consensi, e secondo me è quello il suo fine. Cioè, nel senso, io non lo so, certamente a Fini credo il fatto di ricevere questi consensi dagli elettori e dai dirigenti del centro-sinistra non può che fare piacere. Eccoci alle 19:45 e abbiamo l'onorevole Enzo Carra del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui, esponente della corte, come possiamo definire? Esiste ancora i famosi Teodem, non esistono più, Carra, mi spieghi? Ma non mi pare proprio, è stata una definizione buona per una stagione che è ormai lontana, quella del biennio prodiano, diciamo. Non esistono più i Teodem, esiste una componente cattolica, che esiste? Però quella c'è sicuramente, c'è un'anima e una presenza cattolica all'interno del Partito Democratico. Questo non organizzata, in corrente, no? Non organizzata in correnti, ma che si ritrova su, su alcune questioni e che fa le sue battaglie su quello che sente più direttamente coinvolgente le proprie idee. Senta, ma lei dopo la vittoria di Bersani non si sente un po' più isolato all'interno del politico? Con chi è che si sente di più lei? Con chi è che parla? Con chi fa più comunella? Parlo con tanti amici, con tanti elettori, con tante persone che, con le quali anche di recente ho ripreso dei rapporti. Non mi sento isolato, se questo vuol dire uno stato di desolazione. Mi sento invece fortemente preoccupato per un andamento confuso, irrisolto, qualche volta irresponsabile del partito. Senta, per esempio, tra le responsabilità quali ci sono? Magari la possibile candidatura della Bonino, l'appoggio... Anche la irrisolutezza con la quale si sta affrontando il problema delle intese. Proprio da Bersani e da D'Alema ho sentito per alcuni anni una lunga litania a favore di un'intesa con l'UDC, che poi però si è sciolta come neve al sole. In alcune regioni non è così. Non è così, per fortuna, ma insomma a Roma, dove mi pare ci sia un problema assolutamente emblematico e ci fosse una disponibilità dell'UDC, abbiamo, per la nostra indecisione, per l'indecisione del Partito Democratico, che non ha saputo proporre un candidato credibile e proponibile per l'UDC. Cara, se nessuno si vuole candidare, sa, dopo la vicenda Marrazzo è difficile trovare qualcuno che affronti così il mare magnum. Mi pare che su Zingaretti ci fosse stato, ma già da bambino. E lui non vuole. Un largo accordo. Lui da una parte non vuole. Sotto. Lui, da una parte lui non vuole. Che è successo al telefono? Recuperiamo subito, per carità. Roberto, c'è? Che non faccia politica, perché la politica non è fatta per i vezzi e i capricci dei dirigenti politici. Senta, le faccio ascoltare. Chiede anche dei sacrifici e qualche volta delle mortificazioni. Non è detto che si debba sempre accetti soltanto quello che fa piacere a se stessi. Cioè, secondo lei molti non accettano perché sanno di perdere nel Lazio, o comunque temono di perdere? O sanno di perdere, o la trovano una cosa pesante, non vogliono rischiare, si riservano cose migliori per il futuro, aspettano altre occasioni, ma insomma con queste furbizie non si va da nessuna parte. Lei da buon cattolico dice ci vuole anche il sacrificio alcune volte. Il sacrificio da buon cattolico, direi non credo che altre culture politiche non prevedano il sacrificio. Non prevedano il sacrificio. Senta, cara, le faccio ascoltare quello che ha detto Labinetti oggi ad un'altra trasmissione radiofonica a proposito della sua possibile uscita dal PD. Dice Labinetti: in realtà, se dovesse essere candidata alla Bonino, non è che è il partito, esco dal Partito Democratico, è il Partito Democratico che esce da me. Un po' bizzarro. Comunque, sentiamo. Se mi si presenta la Bonino, lei esce o non esce? Ti voglio dire che il problema non è in questi termini, perché nel momento in cui il PD candida la Bonino, non è che sono io eventualmente che vado via dal PD. È il PD che è andato via da me, da tutta una. Ma non solo da me! E invece Carra che fa se si candida la Bonino? No, guardi, Carra è di essere persona responsabile. Da alcuni mesi, cioè da quando abbiamo avuto la fine del congresso e quindi la segreteria Bersani, rivolgo con una qualche metodicità e insistenza a Bersani delle domande, sperando che mi si diano delle risposte che non per tranquillizzare me, non è un problema personale, ma per capire quale sia l'ambito nel quale vuol muoversi e come voglia realizzare quello che lui, Bersani, ha definito il partito plurale. Però ho capito, al di là di questo, Carra, io voglio capire una cosa. No, ma questo vabbè, per quello che la riguarda, per quello che la riguarda è fondamentale. Non ho risposta. Non avendo risposte, sa, quando non si hanno risposte, non è, non dico come la Binetti che il Partito Democratico si allontana da me, ma il fatto è che io non ho un interlocutore, non ho un interlocutore né comprensivo né credibile. Ma insomma, potrebbe uscire lei, potrebbe uscire dal Partito Democratico, magari. A questo punto una delle possibilità è quella che dice lei, cioè una delle possibilità è quella di abbandonare. E andare con Rutelli magari? No. Aderire al gruppo? No. Come? Aderire all'API? No, non aderisco all'API, guardi, non aderisco all'API perché non è il per tanti motivi che vuoi raccontare, ma non è quella. Non ho messo nella mia prospettiva prossima quella di rifare la Margherita in piccolo fuori del Partito. Senta, ma lei quando è che annuncerà questo l'abbandono al Partito Democratico? Io credo che se la situazione permane senza che le risposte che venga almeno una delle risposte di cui sollecito Bersani, credo nelle prossime due settimane. Nelle prossime due settimane Enzo Carra, diciamo al 90%, lo possiamo dire? Al 90% abbandonerà il Partito Democratico, al 100%, che possiamo dire? Sì. Diciamo il 90%, perché c'è un 10% di speranza che qualcuno mi... Allora diciamo 99%, diciamo 99%. Ma non facciamo... Sì, va bene, insomma, diciamo al 100% in modo che non ci sbagliamo. Ecco qua, al 100% nelle prossime due settimane ci sarà l'addio di Enzo Carra. Grazie, grazie, buonasera. Arrivederci. Però la candidatura della Bonino non è male assoluto, è una candidatura. Perché questa cosa, come la che dice la Binetti, è anticlericale? Non lo capisco. Roberto da Como, buonasera. Sì, buonasera. Proprio sulla candidatura della Bonino. Io non la potrò votare perché abito in Lombardia. Mi pare però che il mio partito, cioè il Partito Democratico, l'abbia già candidata due volte qui e non mi sembra sia successo qualche rivoluzione o qualche tracollo elettorale. Glielo dico anche da una persona che rispetto ai radicali ha sempre avuto qualche perplessità, molti disaccordi. Quindi, cioè lei dice è stata già candidata nelle liste del Partito Democratico. Una cosa è essere candidata all'interno delle liste, una cosa è essere candidato al governatore. Una cosa, guardi, questo secondo aspetto fra un attimo. Dico comunque che è un personaggio autorevole. Uso un'espressione che usa talvolta il mio segretario, nel Lazio non mi pare ci siano verde da sfogliare, non sono più di tante, se qualcuno ne ha le tiri fuori e se ne discute. Dire che non va bene perché è anticlericale è come dire che, non so, Bersani non può fare il Presidente del Consiglio perché è stato comunista, insomma, non lo so, mi sembra una obiezione sul punto, nel merito, comunque. Va bene, grazie. Roberto Alfredo da Roma, buonasera Alfredo. Oh, caro Cruciani, Cruci e Benizia, le mie serate. Buonasera, dica pure, la sentiamo male però. Adesso mi fermo, penso mi trovo a letto perché non sto... Un attimo bene. Solo però, allora Marco da Novara, cerchiamo di ripristinare meglio il collegamento con Alfredo. Marco da Novara, buonasera. Sì, buonasera, intanto mi corre l'obbligo da... collega giornalista di farle i complimenti per lo scoop su Carra che meriterà l'attenzione dei quotidiani. Vabbè, Marco. E questi due interventi, quello della Binetti e di Carra, mi danno la stura nel ribadire quello che voleva essere il senso del mio intervento, cioè che non mi pare così sbagliata la strategia di Casini, perché continua evidentemente ad attrarre dal mondo cattolico, in questo caso del centro-sinistra, ma non solo, perché Casini si comporta come i bambini nei confronti dei genitori che litigano, si mette nel mezzo manifestando evidentemente una capacità di attrazione in quel mondo cattolico che probabilmente e anche per questa ragione non dovrebbe caratterizzare un progetto politico, ma quantomeno fare parte delle proprie coscienze personali. In questo ribadisco che la candidatura di Emma Bonino, che non c'entra niente con la cultura, che francamente mi sembra anche immeritato definire anticlericale, ma una cultura personale di una certa rilevanza, spintamente laica se vogliamo, potrebbe essere la vera novità che distingue i due movimenti. E finalmente, perché oltre allo strapparsi i candidati, e parlo del centrodestra e del centrosinistra, nel copiarsi i programmi, direi che l'unica vera novità rappresenterebbe questa all'orizzonte. Cioè, la novità secondo me sta nel fatto, e ringrazio Marco, che per la prima volta forse un esponente radicale importante si candida con l'appoggio, naturalmente se questo succederà nelle prossime ore, con l'appoggio del Partito Democratico e dunque con buone possibilità o comunque con possibilità di vittoria in una competizione importante come quella locale, elezioni in cui i radicali diciamo non hanno mai avuto una grandissima tradizione a livello di presenza e anche di candidature. Marco da Udine, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Una battuta, dovevo intervenire sul body scanner, ma la Binetti non dovrebbe essere fuori dal PD dal testamento biologico, legge 40, eccetera. Io pensavo fosse già fuori, sinceramente. Beh, certo, le minacce di abbandonare il PD ci sono sempre state, poi non si sono mai concretizzate. Diciamo, ultimamente ha sempre detto no, io non abbandono comunque il Partito Democratico perché proseguo la mia battaglia personale, le mie idee, eccetera, il partito deve essere aperto. Ci sono le minoranze anche all'interno dei grandissimi partiti, no? E nella tradizione, in particolare quella anglosassone. Cioè, la tradizione anglosassone, ci sono dei partiti che sono dei grandi corpaccioni dove c'è dentro un po' di tutto. Poi però la maggioranza comanda in quei partiti là. Non succede la stessa cosa in Italia. Marco, di chi mi voleva parlare? Il body scanner. Allora, già se devo fare una tratta breve in aereo, Roma, Trieste, Trieste, Milano, già dovevo arrivare un'ora e mezzo prima per il check-in, e il parcheggio è la cosa e quell'altro, se devo perdere un'altra mezz'ora per farmi fare un body scanner, che tra l'altro non so neanche quanto sia salutare, poi non so, adesso faranno anche le statistiche, per poter prendere un volo, basta, vado in macchina, vado in treno, vado in qualsiasi altro modo, perché sì, qua siamo un po' alla desperazione. Io sono per la schedatura, se qualcuno vuole le mie impronte digitali, dei piedi, dell'iride, tutto, non è nessun problema. Però poi basta, insomma. Prendetevi una schedatura, chi è schedato non fa il body scanner, non posso perdere. No, ma certo, Marco, lei ha perfettamente ragione, non credo che il body scanner faccia perdere tempo, naturalmente. Però lei dice, insomma, a un certo punto io l'aereo lo devo prendere, per cui che i servizi segreti, eccetera, eccetera, controllino tutto quello che c'è da controllare della mia vita, eccetera, però alla fine mi facciano partire, no? E venga rafforzato soprattutto il sistema della sicurezza prima dell'imbarco, cioè dire la prevenzione, i servizi, eccetera, no? Immagino che lei ti sta dicendo questo, Marco. Esattamente questo. TG5. L'annuncio del governo per la sicurezza, body scanner in 3 scali italiani. Obama sta per annunciare nuove misure contro gli atti terroristici. I genitori dei 2 neonati morti a Foggia chiedono la verità. Ispettori in ospedale. A Pisa un infarto scambiato per dolore muscolare. 30.000 i casi di mala sanità ogni anno. Napolitano celebra il tricolore, simbolo della Repubblica Unita. Schifani, la Costituzione va difesa e adeguata ai tempi. Riforme, sì condizionato di Bersani. Buonaiuti, tsunami, giudiziario sul Premier. In arrivo una nuova perturbazione, freddo e neve al nord, pioggia al centro-sud, allarme fiumi, il Tevere per ora sotto il livello di guardia. Al TG5 la sordomuta bocciata al liceo perché la commissione non le riconosce nessuno dei benefici previsti per legge. Lei fa ricorso, ora potrà ripetere l'esame. All'asta l'orecchino di brillanti di Maradona, si parte da 5.500 euro, in vendita anche gli arredi della villa a Portofino della contessa Vaca Augusta. Polemiche per Obama, testimonial involontario di una campagna pubblicitaria, ma da Mandela a Gorbaciov la febbre da spot ha contagiato VIP e politici. Eccoci qui, io sono davvero curioso di capire chi acquisterà, credo che l'asta ci sarà a Bolzano, gli orecchini di Maradona, che Equitalia, insomma il fisco, mette all'asta appunto partendo da 5.500 euro, non so quando, forse domani o nei prossimi giorni, comunque a gennaio. TG1. Piano del governo contro la 'ndrangheta, più uomini, più sicurezza per i magistrati, a Reggio un'agenzia per i beni confiscati. Da domani tornano pioggia e neve, fiumi sorvegliati speciali, nostro viaggio sul Tevere in piena. Bersani, pronti al dialogo, no a legge ad persona, ma buon aiuti, il vero maremoto è la giustizia politica, Schifani per le riforme Spiragli. Il fallito attentato di Natale sul volo per Detroit, rivelazioni shock sulla fragilità dell'intelligence, tra poco parla Obama. Foggia, ispettori del ministero per i neonati morti in ospedale, parlano i genitori, ma la sanità ha più casi durante le feste. A Natale in vacanza 12 milioni di italiani, il 20% in più rispetto all'anno scorso, meta preferita, la montagna. Ha raccontato alla radio lo sport più amato da milioni di italiani, domenica tutto il calcio minuto per minuto compie mezzo secolo. Va bene, andiamo a sentire i titoli anche della 7. Stretta sul terrorismo in Italia, il ministro Maroni assicura entro 3 mesi body scanner negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Venezia. Paura a Ciampino per una valigia abbandonata, ma era un falso allarme. Rapporto shock del presidente Obama sul fallito attentato di Natale. La Casa Bianca parla di errori inaccettabili da parte dell'intelligence. Smentita la cattura del leader di Al-Qaeda nello Yemen, sarebbe ancora libero e pronto a colpire. Incubo 'Ndrangheta a Reggio Calabria, nel pomeriggio vertice con i ministri Maroni e Alfano dopo l'attentato alla Procura Generale. Momenti di tensione per un petardo trovato davanti all'aula bunker, ma per la DIA è un episodio insignificante. Balotelli, multato, chiede scusa a Verona. Ho sbagliato con la città, ammette, ma non con chi mi insulta. Torino nella bufera, giocatori a cena contestati da un gruppo di ultras e si parla di un presunto giro di scommesse. Il presidente Cairo, sono chiacchiere infondate. Probabilmente Balotelli ieri ha sbagliato. Devo anche dire però che non so cosa avrei fatto io al posto suo in questi mesi. Se Balotelli ha sbagliato ieri è stato un santo prima. In verità lui Super Mario non le manda mai a dire. In campo però... E questa era l'opinione di Gian Antonio Stella sul caso Balotelli. Ha sbagliato e però ed è l'opinione anche di molti ascoltatori che ci scrivono. Ha sbagliato nella reazione magari a prendersela con tutta Verona e però ha sopportato fin troppo. Alfredo allora da Roma. Buongiorno, mi sente Cruciani? Sì, la sento, Alfredo, la sento, dica. Allora, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Croce e delizia delle mie serate quotidiane, di ascolto. Guardi, io sono inciocato a letto, convalescente per un intervento, eppure sono contentissimo riguardo alla candidatura di Emma Bonino. Io, lei e i radicali vi stimo tantissimo, anche perché credo sia un dato oggettivo che in questi ultimi 40 anni di vita politica, in questo panorama politico avvilente, ritengo gli unici o comunque persone che hanno fatto tantissimo e che una volta che individuano i veri problemi sanno come affrontarli. Alfredo, al di là di questo elogio dei radicali, lei ci vuole dire che è d'accordo e contento con la candidatura di Emma Bonino? È così? Ma sono assolutamente contento. Va bene, poi... Sono contento anche della candidatura della Boldrini, che stimo tantissimo. Va bene, poi... volevo dire soltanto questo. Va bene, grazie. La prossima volta abbassi anche il volume della radio se ha la forza di alzarsi dal letto, perché sentiamo in lontananza la sua voce. Tito da Teramo, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Ma io ogni volta che sento la Binetti, insomma, capisco come l'Italia sia rimasta ancora bacchettona, con questo cattolicesimo così fondamentale. Adesso quest'Italia bacchettona io non la vedo. Ma non è così, perché a un certo punto la Binetti, che ha la sua corrente, sta nel Partito Democratico e ci può rimanere benissimo. Cioè, la Bonino non è mica il diavolo. La Bonino, se sarà candidata, avrà un programma che verrà stilato con tutte le altre componenti e tutto lì. Cioè, non credo che la Bonino possa dettare legge sulla sua condizione di laica. Lei è una straordinaria donna, straordinario politico, è stata nella Commissione Europea, ha fatto le battaglie civili, ma non credo che imponga la sua visione laica, diciamo, alla Binetti o chi la pensa come alla Binetti. Quindi questo protagonismo della Binetti, che ogni volta ritorna, insomma, ha stufato. Lei, se sta nel Partito Democratico, ci rimane, poi farà quello che vuole, però voglio dire, in un rapporto dialettico si confronta con tutti gli altri e la maggioranza maggioranza deciderà, voglio dire, i programmi. Beh, sì, soprattutto se alcune posizioni sono minoritarie poi all'interno. Uno può fare anche una battaglia politica, come Fini all'interno del PDL, una battaglia politica su qualsiasi cosa. Poi se uno, come dire, perde queste battaglie politiche o queste battaglie politiche sono minoritarie, non è che si può necessariamente si deve andare via, non è che si può gridare al complotto o alla libertà o alle posizioni che non vengono valorizzate, eccetera eccetera. Insomma, uno è minoritario, sono posizioni minoritarie, ne prende atto. La ringrazio. Emiliano da Firenze. Sì, buonasera, volevo intervenire su Fini. Buonasera. Prego. Sul fatto che la sentiamo male. Maurizio da Catania. Pronto? Buonasera. Buonasera, Cruciani. Lei all'inizio ha esordito dicendo che oggi ieri Feltri è stato cattivo, così come lo è cattivo lei. No, non ho detto questo, ho detto molto più di quanto più di quanto lo sia io di solito, ma era una battuta. Molto più di quanto sia. Era una battuta, Maurizio, si riferiva alla Polverini soprattutto, ma anche Fini. Quando ho battuta l'accetto, no, dico. Ma voglio dire che non sarà secondo me cattivo né Feltri e tantomeno lei, perché lei ha il pregio di stuzzicare i nostri appetiti mettendo tanta carne sulla brace, no? Quindi ci mette nelle condizioni di ribattere quando non la pensiamo come lei e non la pensiamo come tutti gli altri. Certo, Feltri esagera per esempio parecchio. A proposito di cosa? Voglio dire, quando dice che Fini non ha mai lavorato. Ma io vorrei proprio sapere. Poi non capisco, non capisco un'altra cosa, Maurizio. Sì. Ci riflettevo ieri sera. Sì. Perché uno che ha fatto per 20 anni, per 30 anni il politico, uno che non ha mai lavorato, e invece uno che fa da 20 anni o da 30 anni il giornalista e uno che lavora? Non capisco perché sia più. Sia sintomo o segnale di uno che lavora tanto chi fa il giornalista da 30 anni, invece chi fa il politico a 30 anni per antonomasia così non lavora. Ma non riesco a capire, cioè, la differenza. Bah, forse me la spiega lei. No, io no. La convinzione comune ci porta soltanto a vedere il politico che non lavora, perché forse lavora soltanto il ferroviere, lavora soltanto il muratore. Sì, no, ma quando uno dice lui ha fatto il politico per tutta la vita, beh, allora che significa? Anch'io ho fatto il giornalista per tutta la vita. Voglio dire, se pensassimo come Berlusconi, prima bisogna fare l'imprenditore, capire di un po' di società e poi fare il politico e capire quali sono i problemi delle cose. Ma quando dice queste cose Berlusconi sbaglia. Ma lui è un imprenditore, lui viene dalla gavetta, il suo esempio che iniziò portando il frigorifero al primo piano di una signora a Milano e via dicendo. Dico, Feltri comunque io lo rispetto, perché quando meno non usa mezze parole o ci gira intorno. Dice le cose in maniera diretta, ma guardi che comunque Fini, voglio dire, non è che non si difenda e non è capace di difendere, anzi, riesce benissimo forse quel gutto, cosa gli ha mandato? Gli ha mandato qualcosa a Feltri, il regalo per Natale, che forse gli ha fatto anche male a Feltri, quindi l'ha messo nelle condizioni di non dire bene le sue. Il Valium. Eccoci qui alle 20.12, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a Roma. Giovanna, buonasera. Sì, buonasera signora dottor Cruciani. Senta, io l'ascoltavo in macchina, purtroppo a casa non ho la radio, quindi non so poi come il dibattito è andato. Io volevo fare semplicemente una brevissima considerazione. Io sono un'elettrice del Partito Democratico, ho creduto in questo partito, in tutto, diciamo, il percorso che ci ha avuto per arrivare a essere Partito Democratico, e io in questi giorni, sentendo tutte queste storie, Casini, UDC eccetera eccetera, io ritengo, come elettrice del Partito Democratico, io non mi ci vedo, cioè non credo che molti elettori del Partito Democratico, così come ragiono io, ragionano anche altri, questo accordo con l'UDC è una cosa che non ci piace assolutamente. Ricordiamoci che l'UDC è il partito di Cuffaro, è il partito Cuffaro, è Cuffaro, il partito dei cannoli, cioè subire, non so come dire, questo tipo. Io capisco che si voglia vincere, questo lo capisco, però alcune volte, cioè, lei non vede l'alleanza tra lei non vede l'alleanza tra Partito Democratico e UDC, non le piace, no, perché l'UDC lei lo identifica come il partito di Cuffaro, cioè il partito della commistione tra politica, mafia, eccetera. Questo, semplicemente semplicemente questo volevo dire. Va bene, grazie. Riccardo, sempre da Roma, buonasera. Buonasera, sono io da Nettuno? Sì, da Roma, sì. Noi abbiamo scritto, sì, ma insomma, se lei ci chiama da Nettuno, grazie, va bene lo stesso. Chiamato, sì. Volevo dire la mia opinione sul discorso. Un attimo che... solo, un attimo solo. Blob, tacca banda, questo è il titolo. Pacco numero uno, apri. Miss Italia, Maria Pedrosi. Di Miss Italia, di Miss Italia presentata ieri durante i pacchi speciali per il 6 gennaio. Io lo so che cosa. Torniamo a Riccardo da Roma, ma c'era Mussolini, eh? Telespettatori, porro, te lo dico con il sorriso, siamo tutti buoni per il dia. Porro, senti come sei bello, porro. Tu hai detto, hai avuto il coraggio di dire in campagna elettorale, perché siamo in campagna elettorale, che appoggiate la Bonino anziché la Bonino. Io, a me sta simpatica la Bonino. No, Nicola Porro non è neanche più residente porro. In Lombardia. Porro, la Bonino non è neanche simpatica. La Bonino a è me, simpatica. A me non andiamo potrà starmi simpatica la Bonino, porro, Mussolini. La Bonino non potrà star simpatica la Bonino. Presidente Mussolini, le chiedo solo il tempo. Ma Nicola Porro non impegna il giornale, non impegna neanche i miei genitori. Senti, allora, no, fermi, un attimo, fermi. Presidente Mussolini, le chiedo scusa. Andiamo in pubblicità e torniamo. Nicola, andiamo in pubblicità e torniamo, possiamo dire insieme, così ripristiniamo l'armonia. Come un cervo, come un bue, grazie a quelle corna tue. Non si può parlare di legge ad personam soltanto perché potrebbe anche agevolare il Presidente del Consiglio. Ecco, voglio dire, non si può fare una legge contra personam per sostituire, per bocciare una legge cosiddetta ad personam. Ma guardi, dottor Fede, che anzi noi siamo portatori da tanto tempo di una proposta apparentemente impopolare, ma di una grande amnistia che liberi i tavoli dei magistrati dai processi minori per concentrarsi su quelli maggiori, e se in questa grande amnistia in qualche modo ne dovesse beneficiare anche qualche autorevole leader politico, ce ne faremmo una ragione. Eccoci qui, 20:17, 800 24 00 24. Eravamo con Riccardo da Nettuno. Allora, buonasera. Sì, grazie, buonasera. Mi dica. Volevo esprimere la mia opinione sull'eventuale obiettivo di Gianfranco Fini, col suo comportamento, con le sue uscite, sì, anche con questa diatriba con Feltri. Secondo me, essendo un vecchio lettore di AN da quando si è fondato nel 93, quindi conoscendo abbastanza anche Fini a livello politico, non personale chiaramente, l'obiettivo di Fini è quello di prendere il posto del Presidente Berlusconi come Presidente del Consiglio, non per acclamazione popolare o con le elezioni anticipate, ma per investitura del Presidente della Repubblica. E questo comportamento di Fini, che ribadisco, essendo un vecchio elettore, per me è un ottimo tattico, ma un pessimo stratega, perché ci ricordiamo dell'elefantino, ci ricordiamo della strategia delle tre punte nelle elezioni che perse e poi che vinse Prodi, e quindi come stratega non lo ritengo molto valido. Come tattico invece è molto bravo. Lui sta pensando che entro l'estate Berlusconi si dovrà dimettere per via dei processi, per via di un certo clima che verrà a crearsi, per cui si sta creando anche un retroterra di apprezzamento da parte di certe forze politiche e anche di opinione, per cui, non potendo mettere Schifani e Letta perché sono persone molto vicine a Berlusconi, l'unico che potrebbe essere nel parterre politico è Gianfranco Fini, un po' come ha fatto D'Alema quando divenne Presidente del Consiglio, non per elezioni ma per... Va bene, Riccardo, questa mi sembra un po'... Lei è andato un po' avanti. La ringrazio. Luca da Firenze, buonasera. Dottor Cruciani, buonasera. Di nuovo complimenti per la trasmissione, non sarò il primo, non sarò l'ultimo, ma... Penso sempre sia un piacere. Solo per fare una somma di quanto è stato detto riguardo i malessere e i mal di pancia del Partito Democratico, io così la butto là, cercando di dire che secondo me, questa è la mia opinione, il Partito Democratico dovrebbe perseguire una linea ben specifica, ben precisa, escludendo alleanze quali quelle con Di Pietro, con l'UDC e compagnia bella, cercando di valorizzare la forza che il Partito Democratico ha e cercando piano piano di conquistare sempre più un elettorato più ampio che possa consentire prima o poi di poterlo far tornare al governo. In poche parole, quello che suggerisco è cercare di avere a tutti gli effetti, su questa è un po' una diversione professionale, un piano marketing, un piano che possa cercare di analizzare le debolezze, i punti di forza del Partito Democratico, degli obiettivi chiari, delle criticità da superare, cercare di capire chi è l'elettorato e cercare di capire quali sono le risorse. Però guardi, basta con alleanze di Pietro, alleanze dell'UDC, sono d'accordo con lei, la Binetti ci può stare, ok, porterà 4 voti, 5 voti, 10 voti, non lo so, però concludo dicendo, scelte, noi del Partito Democratico, elettori del Partito Democratico, vogliamo vedere delle scelte sì, chiare e coerenti. C'è anche da dire, Luca, che sì. Non si può pensare di fare alleanze vaste come sembra esatto. Essere nell'intenzione di Bersani, perché l'UDC e l'Italia dei Valori almeno sembrano essere incompatibili, poi in politica esatto. Non si può mai dire nulla di definitivo, per cui non si può pensare di allargare la coalizione all'UDC se non perdendo Di Pietro e poi l'UDC che cosa fa? Va insieme a Sinistra e Libertà o comunque a quella che era una parte dell'estrema sinistra? Esatto. Insomma, esatto, se si fa la scelta dell'UDC a livello nazionale, esatto. Poi è PD più UDC, non c'è niente da fare, altrimenti insomma, almeno a livello di partiti, poi a livello di elettori non lo so. Ma mi perdoni per questa cosa che dico, poi ognuno può fare gli scongiuri degli elettori del Partito Democratico, ma la linea scelta da Veltroni, che sembra quasi che non si possa rinominare, la scelta fatta da Walter Veltroni è quella di dire costruisco un partito, lo costruisco forte, forse ci metto 10 anni, ma prima o poi l'elettorato anche italiano capirà che forse questa può essere l'alternativa all'attuale forza della PDL. E concludo con una battuta che lei, essendo più esperto in politica di me, che fece Nixon a suo tempo, no? Quando diceva perché votano Kennedy? Gli americani votano Kennedy perché vorrebbero essere come lui e non come me, cioè Nixon, che sono uno di loro. Allora, finché resisterà il mito Berlusconi, credo che sarà dura. Allora, prepariamoci quando questo mito non ci sarà più. Va bene, grazie. Andiamo grazie. A Piacenza. Grazie. Marco, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Ma niente, io... È tanto tempo che stavo provando a chiamare, semplicemente per esprimere il mio giudizio su quelle che sono state le varie considerazioni fatte da giornali e altre persone su Fini. Quando io sono nel lettore del centro-sinistra, quando Berlusconi ha vinto, ho detto, cavolo, pensare che il mio tutore dal punto di vista politico debba essere Fini, considerando i suoi precedenti, ho detto... Insomma, un minimo di preoccupazione c'era, anche se anche allora gli riconoscevo certamente una connotazione politica superiore, diciamo, dal mio punto di vista, che quindi è del tutto individuale e opinionabile, comunque un livello superiore dal punto di vista politico rispetto alla media del PDL. Lo ha confermato nel tempo, soprattutto lo ha confermato con le uscite che ha avuto, che sono... Da politico reale, se vogliamo da uomo di Stato, adesso non voglio fare ricami eccessivi e non voterò mai Fini, però certamente un politico ritengo debba avere il dovere, soprattutto se ha responsabilità di governo, di fare e di pensare a medio, a lungo, se non addirittura... Guardi che Fini in questo momento non ha responsabilità di governo, ha ruolo istituzionale. Siamo d'accordo, però... chi era con lui nel partito, sì. Sì, sì, no, ma qui stiamo comunque... parlando di Fini. Va bene, Marco, la ringrazio. 800 24 00 24, Alessandro Savoy, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, Alessandro Savoy è capogruppo della Lega Nord in provincia di Trento. Trento, giusto, esattamente. Dove si trova adesso in questo momento? Lei abita a Trento? A Cembra, al mio paese, Cembra. Come si chiama il paese? Come si chiama il paese? Cembra. Senta, qui ho letto una cosa pubblicata da un quotidiano locale. La Lega Nord Trentina vuole licenziare una ditta di pulizie. Niente islamici nei nostri uffici. Il capogruppo ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Provinciale. Sulle nostre scrivanie ci sono dati sensibili e un problema di sicurezza. Dunque, lei non si sentirebbe tranquillo perché c'è un'impresa di pulizie che ha spazio e aspira agli uffici del gruppo in Consiglio Provinciale e quei lavoratori sono islamici. Perché non si sente tranquillo, Savoy? Ma non ho scoperto dopo qualche mese che abbiamo un gruppo qui con Sulmare che fa le pulizie gente islamica. L'altra mattina il mio collega del consigliere provinciale Cinettini ha trovato addirittura la signora che dormiva sul divano della Lega, e credo che sia un grosso pericolo il fatto che chi effettua pulizia all'interno del gruppo consigliere Lega Nord sia di fede islamica. E poi se avete ragione che noi abbiamo con l'Islam una partita aperta, e la Lega fa politica sull'Islam in tutti i sensi, dalle moschee, crocifissi e quant'altro. Il sapere che c'è personale che può accedere ai nostri dati, alle nostre carte, all'interno degli uffici, evidentemente è un grosso rischio. No, però mi scusi, Savoy, a parte che non credo che non siete voi a decidere chi è che fa i lavori di pulizia all'interno dei gruppi consiliari in provincia di Trento, ci sarà un appalto vinto da un'azienda di pulizie. C'è un appalto, però l'avevo scoperto che l'appalto, la ditta appaltatrice, che è anche una trentina, che si avvale di personale islamico, evidentemente non fa piacere, anche perché noi nell'ufficio abbiamo carte molto riservate, e quindi il personale potrebbe condizionare, anche visionare tutte le nostre carte, fotocopiare documenti alla tanto riservati politici della Lega, e quindi su questo aspetto noi non siamo d'accordo. No, però mi scusi, Savoy, insisto, a parte che fotocopiare delle carte riservate, dei documenti, come dice lei, lo potrebbe fare chiunque, non solo gli islamici, ma anche, che ne so, dei lavoratori veneti o trentini o siciliani o calabresi. Se sono nella disponibilità, se non li mettete sotto sicurezza, il problema si ripropone. Lei dice la differenza è che, siccome abbiamo un conto aperto, una partita aperta con gli islamici, anche qui bisogna vedere, comunque insomma, io ripeto le sue parole, allora per noi c'è questo pericolo. Ma insomma, se avete delle cose sensibili, mettetele sotto chiave, proteggete i vostri dati, i vostri documenti in qualche modo, perché noi non possiamo a casa nostra dover mettere tutto sotto chiave gli uffici. Io ho le mie carte, alcune cose sono segretate, altre no, però ripeto, non posso pensare che qualcuno, entrando nei miei uffici, chi fa le pulizie entra di notte, quindi fa di notte le pulizie, e possa visionare le mie carte. Evidentemente sono cose molto riservate che riguardano la sicurezza mia e i miei colleghi. Il mio partito, lei sa benissimo, fa politica anti-islamica, contro le moschee, i crocifissi e quant'altro, quindi il pericolo, che peraltro è anche internazionale in questi giorni, evidentemente è molto molto elevato. Per la sicurezza mia, personale, dei miei colleghi, evidentemente non possiamo permettere che chi fa le pulizie, comunque chi entra nei miei uffici, che sono fino a prova contraria a casa mia, sia di una fede contro cui io combatto giornalmente. A parte il fatto che non mi è chiaro che voi combattete giornalmente, che lei combatta giornalmente contro la fede islamica, questo mi risulta nuovo, non mi pare che sia nella no. La Lega fa battaglie contro le moschee, noi credo ne abbiamo fatto raccolte. Vabbè, non è che fate una battaglia in generale, almeno spero che no. A difesa, noi non abbiamo una politica aperta religiosa molto forte. Noi sappiamo che l'Islam è il grosso pericolo per il nostro Occidente, che l'Islam hanno una filosofia dente per dente, occhio per occhio, che quindi sono i nostri nemici potenziali contro cui noi dobbiamo tutelarci, difenderci e quant'altro. Sapere che poi chi effettua pulizie, comunque chi ha accesso ai nostri uffici, quindi può visionare comunque le nostre carte, sia di religiosi islamiche, evidentemente questo la Lega non può permetterlo. E ora mi ho fatto presente alla ditta patatrice di mandarci qualcuno che sia trentino, che sia italiano, che sia... E che vi hanno risposto? Che vi hanno risposto? No, so che non ha risposto. Il presidente Kessler ha risposto che noi siamo, facciamo politica discriminatoria. Io dico che per il rispetto, per la mia sicurezza, dei miei colleghi, del personale, chi lavora, non posso tollerare che le pulizie... Ma questi magari sono italiani. E Savoy, mi scusi un attimo, questi lavoratori qui saranno pure italiani, immagino, saranno cittadini italiani, magari islamici, ma saranno cittadini italiani. Ma sì, anche in Inghilterra sono inglesi quelli che mettono le bombe, quelli che fanno casino, insomma, quindi noi dobbiamo prevenire un po' le cose. Voglio dire, c'è un pericolo essenziale, mondiale, eccetera, e sapere che a casa mia chi fa le pulizie è di una fede che contrasta fortemente la mia politica che faccio giornalmente sul territorio, evidentemente non è tollerabile. Quindi la Lega chiede solo massimo rispetto, chiede solo che ci sia qualcuno che fa le pulizie, comunque fa il lavoro lì accessibile, perché ripeto, noi non siamo un'impresa edile in cui c'è manovale, c'è un muratore islamico, non islamico, e va benissimo, noi abbiamo dei dati riservati, circolari. Ma cosa temete? Non ho capito cosa temete, Savoy, concretamente cosa può temere lei da uno che fa le pulizie, che è di religione islamica, anche lì non è che c'erano... Scusi un attimo, Savoy, tra l'altro, no, scusi un attimo, non è che ce l'hanno scritto in faccia che sono islamici, tra l'altro, come fa a saperlo lei? Ho capito, ma potrebbe fotocopiare tutte le mie carte, le carte che arrivano da Milano, dalla segreteria federale. E che ci fa con queste carte? Per capirci, e quindi potrebbe, diciamo, divulgare dati che sono strettamente personali, su cui la Lega fa i suoi programmi politici, che condivida, questo è un altro discorso. Magari non possiamo permettere, ripeto, che la nostra privacy venga violata in questa maniera qua. Ma noi non chiediamo questa signora nella fattispecie che fa le pulizie, chiediamo solo che chi fa le pulizie all'interno dei nostri uffici, quindi a casa mia, fino a prova contraria, sia gente di cui mi posso fidare. Questo è il problema di persone di cui ci si può fidare. Lei ha ragione, ma perché lei non si dovrebbe così a prioristicamente fidare degli islamici? Vabbè, niente in contatto con la signora, però per quello che sono io potrebbe fotocopiare tutti i miei documenti, tutte le mie carte, tutti i miei messaggi, tutte le circolari che arrivano, eccetera. Ma questo lo potrebbe fare chiunque, però, sa voi, lo potrebbe fare chiunque, anche. Ho capito, però siccome noi siamo fortemente anti-islamici, ma se uno se la vuole prendere con lei, perché lei fa una politica, come ha detto, fortemente anti-islamica, non penso che abbia problemi a identificare il suo indirizzo. Bene, 20:33, abbiamo il TG2, poi torniamo con Alessandro Savoy, che è capogruppo della Lega Nord in provincia di Trento, che non vuole negli uffici della Lega a Trento che a fare le pulizie per motivi di sicurezza siano degli islamici. TG2. Nel vertice a Reggio Calabria, Maroni e Alfano annunciano più agenti e magistrati contro l'andrangheta. Arriva anche l'agenzia per la confisca dei beni. Da marzo i primi body scanner negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa, Venezia. Il TG2 è nell'azienda che costruisce gli scanner che individuano materiali pericolosi. Finisce due volte in ospedale a Cortona, ma i medici non si accorgono della rottura dell'aorta. La macchina dell'attacco è fuori uso. I familiari chiedono giustizia. Volano i prezzi dei carburanti. La Verde supera 1,35 euro il litro. Caticalà, antitrust, dice: non capisco, ma non ho prove che sia un illecito. Ancora ipotesi, ancora misteri sulla enigmatica Gioconda di Leonardo, da signora fiorentina ad autoritratto del maestro. E ora c'è chi sostiene che dal suo aspetto si deduca che aveva il colesterolo alto. Va bene, allora, Savoy, mi sono arrivate tantissime mail ed sms su questa vicenda. Devo dire, tutte abbastanza sconcertate, perché naturalmente lei può fare la politica che vuole, come dice lei, una politica fortemente antislamica. Ma ripeto, il problema è essenziale, nel senso, non è possibile che all'interno di un gruppo consiliare della Lega Nord, che fa una politica fortemente antislamica, ci sia gente di fede islamica che ha accesso a qualsiasi carta che può venire di giorno di notte, che ha le chiavi di un ufficio, che può visionare le tue carte. Ripeto, non ce l'ho con la signora in questione, che può essere brava o non brava, è una questione politica. Non possiamo permettere che all'interno del nostro movimento ci sia gente di fede islamica che può accedere a carte. Però mi scusi un attimo, ma lei come fa a sapere che queste persone che fanno le pulizie sono di fede islamica? Beh, è islamica, la posso fare anche io, l'abbiamo beccata addirittura che dormiva sul mio divano, addirittura una mattina, 7 di mattina, stavo dormendo sul mio divano. Chi dormiva sul suo divano? Anche nel mio ufficio, quindi quello è il problema. Ma ripeto, non è quella signora in persona che può essere una persona, può avere la lavoratrice, ma andiamo in un momento politico, le persone che fanno le pulizie, le persone che ci accedono, devono avere una riservatezza essenziale, la stessa riservatezza che hanno i miei dipendenti nei confronti dei nostri consiglieri provinciali e regionali. Non possiamo permettere che chiunque abbia accesso a carte particolari, a progetti politici che possa visionare, fotocopiare, esportare, senza a mia insaputa evidentemente. Quindi è una battaglia veramente politica, ma ripeto, mi sembra normale, noi della Lega che difendiamo con forza i valori dell'Occidente contro questo Islam che ci ucciderà, che ci... Senta, questa signora, ho capito, Savoy, ho capito, questa signora... Ho capito benissimo, questa signora che lei ha trovato seduta sul suo divano, che ne sa lei che è islamica? Magari è di origine marocchina e già italiana da diversi anni, che ne sa che è islamica? è islamica, perché l'abbiamo verificato, quindi questo è... Come l'avete verificato? Gliel'avete chiesto? È verificato perché... Ma quanti sono questi lavoratori islamici di questa ditta che lavorano? Io non lo so, io, la signora che fa le pulizie, ripeto, io non c'è niente con la signora, ma io pretendo che nei miei uffici, e quindi a casa mia, chi fa le pulizie, quindi chi vi ha accesso, quindi con le chiavi, perché evidentemente, sia gente fidata, di cui io non posso fidarmi di gente che non so neanche da che parte proviene, come la pensa politicamente, cosa fa, cosa potrebbe fare. Beh, come la pensa politicamente sarà un po' difficile saperlo anche da altri. Capisci cosa voglio dire? Quindi, sì, no, ma capisco, mi sembra una paura, francamente, Savoy, mi sembra... Io continuo a ricevere minacce giornalmente perché sono della Lega, e ho ricevuto anche le botte da... un tempo fa a Trento perché sono della Lega, quindi figurarsi se io posso permettere che nei miei uffici, anche nei miei uffici ci sia gente che possa dire uso condizionale, bisognare le mie carte, le mie email, il fascalino da Milano anziché da Bergamo, da Torino. Però lei una sicurezza da questo punto di vista, Savoy, mi sembra che lei sia piuttosto prevenuto però con le persone di fede islamica eccetera, perché lo stesso... Noi abbiamo in corso una battaglia fortemente... Ho capito, ma questo l'ho capito, però lo stesso pericolo... Che noi abbiamo una battaglia. Ma l'ho capito questo qua, Savoy, solo che se voi non mettete le cose sotto chiave, se lei ha dei dati sensibili che non vuole che qualcuno visioni, che qualcuno... Ho capito, ma ci sarà sempre questo problema. Il problema si ripresenterà anche con altre persone. Ma ripeto, per carità, però sapere già in partenza che questa persona ha una fede diversa dalla mia, nel senso islamica, evidentemente per me è sempre un pericolo costante, capisce? Questo è il problema. Sì, ma questo mi sembra... Io non ce l'ho con la signora, basta che l'impresa di polizia mi mandi anche l'islamica, l'italiano, non ci sono problemi. Cioè lei vuole un italiano, a parte lei sa se questa persona è italiana oppure no, magari è italiano. Questa signora magari è italiana. Non so se ci sarà altro, ma ripeto, questo non è relativo, ripeto, io mi dico, altrimenti io ho fatto presente al presidente Keller, che io le pulizie me le assumo a mie spese come gruppo consigliere della Lega. Potrebbe essere un'idea. Siamo disposti anche a assumerci le spese in proprio, perché siamo sicuri che chi ci fa le pulizie sia persone affidabili, responsabili e quant'altro. Questo è il problema. Va bene, grazie Savoy, grazie. 20:39 800 24 00 24 Massimo da Roma. Buonasera dottor Cruciani. Allora, io volevo intervenire sul dibattito Polverini e la Emma Bonino. Io premetto che sono un elettore di destra, ho sempre votato a destra, ho militato a destra, e non mi scandalizzerei del fatto che posso riconoscerne in Emma Bonino un buon amministratore. Dico questo perché a me sembra che la Polverini sia più il frutto di un sia il prodotto di un frutto mediatico, insomma, no? È portata avanti da Floris perché stava a Ballarò una settimana sì e l'altra pure, forse, insomma, no? Sdoganata, come si usa dire, dal segretario della CGIL, e forse mal sopportata anche dagli altri due segretari generali di CISL e UIL. Non mi sembra che ci siano tutte quelle capacità politiche, per carità, è molto interessante sentirla parlare, è graziosa, gradevole, si presenta bene, però un conto è dirigere un sindacato come l'UGL, in cui diciamo che c'è quasi un potere assoluto del segretario generale, un conto è stare in regione, una regione come la regione Lazio, e avere delle responsabilità amministrative molto pesanti senza avere dietro un bagaglio culturale, politico e amministrativo che ti permetta di fare questo. Ora, siccome siamo in un momento in cui il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della regione ce lo scegliamo come vogliamo, no? Però non mi pare che necessariamente il presidente di una regione debba avere dietro chissà quale bagaglio di preparazione amministrativa. Se vogliamo... Marrazzo non aveva, adesso al di là di quello che è successo negli ultimi mesi, però Marrazzo non aveva nessun tipo di preparazione amministrativa, faceva il giornalista. D'accordo, ma fino alla vicenda dei trans, i giudizi sull'operato di Marrazzo nella Lazio non erano così negativi. Per carità, infatti, poi c'è altri, ci sono altri precedenti di persone che sono arrivate al vertice di enti locali senza una grandissima esperienza amministrativa dietro. Per carità, ma infatti io tutti quei, lei riferisce a Badaloni, ad altre persone, persone stimabilissime, rispettabilissime, come rispettabilissima. Insomma, cos'è che non le va a genio lei da elettore, diciamo, di centrodestra, quello che mi sembra di capire, della Polverini? Non ho capito, scusi. Cos'è che non le va a genio della Polverini? Questo fatto che non mi sembra che sia la persona adatta in un momento in cui questa regione ha bisogno di un'amministrazione un po' autorevole, insomma, no? Non autoritaria, ma autorevole, che ci dice che permetta di... Perché Marrazzo, io non l'avrei votato Marrazzo, ma non per il fatto dei trans o meno, perché è riuscito a non governare questa regione, non ha scontentato nessuno. Vabbè, Massimo, al di là del giudizio Marrazzo, insomma, a lei non piace la Polverini, non le sembra all'altezza del Conte? Non mi sembra all'altezza. Poi e la Bonino? Spero di sbagliarmi. La Bonino, vede, io sono un cattolico praticante, insomma. Sì, ecco, appunto, interessante. Che pensa della Bonino? Sono un cattolico praticante. E siccome nelle competenze del Presidente della Regione non è che ci siano poteri o potestà che poi possano inficiare il fatto di dire a un cattolico, è un bravo presidente, come ho potuto dire, è stato un bravo commissario europeo, la Bonino si è occupata delle grandi battaglie sociali, hanno fatto dei... Dunque io ritengo che la Bonino potrebbe essere... Dunque lei da cattolico praticante, insomma, della questione della Bonino anticlericale, della posizione della Bonino, non gliene frega assolutamente niente. No, non me ne importa assolutamente niente, anzi io non sono d'accordo nemmeno con la Binetti che dice se la Bonino... e viene candidata io esco dal Partito Democratico, non me ne importa niente. No, veramente la Binetti dice che il Partito Democratico che esce da lei, esce da lei, sì, va bene, grazie, capito, Massimo, però... grazie. Però, Giacomo, Scandi... Giacomo provincia di Lucca. Sì, buonasera signor Cruciani. Dica. Io ho acceso la radio da una decina di minuti, ho ascoltato la sua trasmissione e mi trovo ad ascoltare la telefonata di questo signor Savoy. Ma veramente conosco. L'abbiamo chiamato noi, non è che la telefonata di questo. Comunque. Sì, mi scusi. E ho sentito che è capogruppo della Lega per la provincia di Trento. Ora, io la ammiro molto perché lei riesce a trattenersi, spero, dal non offendere questo signore, perché io mi... Ma veramente io non offendo nessuno, per cui non vedo perché dovrei offendere... No, perché io mi meraviglio di come si faccia a sentire da parte di un politico delle frasi così senza senso quando parla in merito a una persona che lavora e va a fare le pulizie nel suo ufficio. Dico, non mi risulta che esistano delle leggi che richiedono di esprimere la propria fede religiosa per essere assunti in determinate mansioni, perché altrimenti c'è pericolo che si acceda ad alcuni dati che peraltro non dovrebbero neanche essere accessibili, perché dico, se sono dati sensibili ci sono i computer sono protetti, come dice lei, le mettano sotto chiave. Però ecco, mi domando se questo signore, oltre al lavoro che fa, che non so se fa soltanto il capogruppo della Lega, ma ha mai fatto un qualunque altro tipo di lavoro, ha mai dovuto fare un colloquio di lavoro, ha mai dovuto sostenere, e qualcuno le abbia mai chiesto di che religione è, per fare qualche tipo di lavoro, ecco. Cioè, è veramente, mi verrebbe, ripeto, mi trattengo io da non offenderlo, perché sentire questi discorsi, una persona di fede islamica non deve venire a fare le pulizie a casa mia, lo trovo veramente fuori dal mondo, ecco. Va bene, grazie. Eccoci qui, 20:47, 800-24-00-24, Riccardo da Milano allora, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera. Dica. Dunque, il concetto è che a me mi pare che la Lega, quando si avvicinano le elezioni, riesce a partorire tutta una serie di, diciamo, provvedimenti amministrativi che attirano l'attenzione su politici che altrimenti nessuno conoscerebbe. Vabbè, però non mi sembra il caso del signor Savoy, di Alessandro Savoy. Il caso del signor Savoy, sì, però ecco, in merito al caso del signor Savoy, sentendo la telefonata, pur non essendo leghista, credo che anche tornare la voce possa farlo pensare, insomma. Mi sembra legittima la sua richiesta, mi chiedo soltanto come reagirebbero... Come legittima? Mi scusi Riccardo, come fa a ritenere legittima la richiesta di un personaggio che a un certo punto dice io nei miei uffici, le pulizie sono gestite naturalmente dalla provincia, non voglio persone di religione islamica perché minacciano i miei dati, ma insomma si rende conto... Beh certo, può sembrare detta così, voglio dire, mi sembra legittimo che il politico in questione possa chiedere, insomma, una certa garanzia rispetto a chi ci va a fare le pulizie. Effettivamente, rispetto a una forza come la Lega Nord che ha i bisticci suoi con gli islamici, è chiaro che, insomma, qualche problema, qualche pensiero gli può pure venire. Ho capito, Riccardo, ma lei pensa davvero che possa rappresentare un pericolo il fatto che una signora o due signore o non so chi faccia delle pulizie all'interno di un ufficio dove i dati, come abbiamo detto prima, dovrebbero essere chiusi dentro i computer? Cosa si può trovare di così pericoloso per l'incolumità di Alessandro Savoy? È una cosa ridicola, evidentemente ridicola, se non addirittura allora, patetica. Dava ragione a me, sul fatto che Savoy, che non è così, diciamo, non è così sprovveduto, se è pensato, diciamo, un provvedimento così patetico, così palesemente incline a creare polemica come quello dell'altro. No, ma non credo che sia strumentale, non credo che sia così strumentale la cosa, Riccardo, credo che sia semplicemente rincoglionito, adesso non uso queste parole, insomma, credo che la ringrazio di questo intervento, credo che sia semplicemente così, un po' condizionato da pregiudizi, ecco. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Varese. Gustavo, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. L'argomento è lo stesso della telefonata precedente, e io volevo solo dire questo. Tutti i leader della Lega Nord sono stati condannati a morte e più volte dal fondamentalismo islamico. La norma, diciamo, del signore che avete contattato è sicuramente una norma di prudenza. Io vorrei solo ricordare che il fondamentalismo islamico non è tanto scindibile dall'islamismo moderato, perché ogni qualvolta c'è un attentato terroristico islamico non c'è mai una negazione. No, però mi scusi, non vorrei entrare nella discussione adesso tra fondamentalismo, l'islam moderato, sono cose che non c'entrano niente, qui c'è semplicemente una cosa. No, non è tutto lì, Gustavo, non è tutto lì, perché lei fosse condannato a morte. Ma perché lei in questo modo cerca di... Anzitutto non c'è nessuna condanna a morte su Alessandro Savoy, non mi risulta nessuna condanna a morte, altrimenti l'avrebbe detto, non è stato minacciato da nessuno. Anche se fosse stato minacciato da qualcuno, non lo escludo, non ce l'ha detto, ma insomma non lo escludo. Mettiamo che sia stato minacciato da qualche pazzo, eccetera. Cosa c'entra questo con le pulizie nel suo ufficio? Cioè, qui entriamo in una cosa anche abbastanza grave, cioè le pulizie sono decise dalla provincia di Trento, l'appalto viene dato, ogni ditta si assume la responsabilità delle persone che manda dentro gli uffici. Io credo che queste già siano delle garanzie sufficienti. Dire io non voglio una signora, non voglio qualcuno, semplicemente perché questa persona, poi secondo me non lo sapeva nemmeno fino in fondo Savoy qual era se era solamente di nazionalità, di origine, che so, marocchino, oppure di religione islamica, ma comunque insomma solamente dire non voglio questa persona semplicemente perché è islamica, ecco, questo mi sembra francamente una cosa senza senso. Non c'è, come dice lei, una questione di sicurezza, c'è solo pregiudizio. No, io la vedo sotto il profilo della mera prudenza. Ma la prudenza può essere eccessiva, non c'è. Può essere eccessiva. E in ma a parte che le pulizie negli uffici non le decide, le pulizie negli uffici della provincia non li decide Savoy, li decide il presidente della provincia. Ma io conosco bene quelli della Lega, per cui alla fine se le faranno loro, spese loro. Non se problema, le facessero loro, ho capito. Risolveranno sicuramente. Il problema è che una condanna a morte del fondamentalismo islamico è una cosa serissima. Perché sono stati etici. Sì, ma Alessandro Savoy non è stato condannato a morte. Abbia pazienza, Gustavo. Certo che è una cosa seria. Figuriamoci se non la considero una cosa seria. Ma non risulta nessuna condanna a morte nei confronti del capogruppo della Lega in provincia di Trento. Non è che tutti i dirigenti della Lega, dal più piccolo fino a... Allora mettiamo la scorta pure al... Non so, cioè a Salvini. Salvini, se ci senti, hai la scorta, non credo. Gianmario da Milano, buonasera. Buonasera signor Cruciani. Allora io ho due considerazioni. Una per quest'ultima querela che è uscita qui adesso di questo signore qui della Lega. L'unica cosa che mi fa piacere pensare è che lui riesca a campare abbastanza in là con gli anni da vedere un suo figlio o una sua nipote che al 70% sarà sicuramente fidanzato o fidanzata con un extracomunitario, come stanno andando. Ma questa è una stupidaggine, Gianmario. È la verità. No, questa è una stupidaggine che non c'entra nulla con la discussione che stiamo facendo, niente, proprio zero assoluto. Cambiamo capitolo, punto a capo. La mia telefonata era in base al discorso della da parte dei giornali di destra ci sono stati in questi ultimi periodi degli attacchi a degli esponenti tipo la Mussolini, tipo adesso Feltri con la cosa. Come mai secondo lei ci sono queste, non so, trasversali, queste linee trasversali di condotta nei confronti, questi attacchi? Gianmario, francamente non capisco la domanda, perché ne stiamo parlando da 2 mesi, lei li considera attacchi, io le considero delle prese di posizione di Feltri nei confronti di Fini, non necessariamente devono essere attacchi, sono delle attacchi politici, diciamo, nei confronti di Fini, la Mussolini, non mi risulta, non... c'è stato qualcosa, ma non mi sembra un obiettivo dei giornali, come dice lei, di destra. Il perché nelle discussioni che stiamo facendo da mesi. Sergio da Monza, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Buonasera, allora intervenivo in merito al precedente intervento del capogruppo signor Savoy e rimango sbigottito per quanto ha detto, come le è rimasto lei sono piacevolmente colpito del fatto che siamo stato molto fermo, nel senso che mi dispiace che debba utilizzare questo mezzucolo per farsi un propaganda, come mi è sembrato, questo è il mio modesto. Ma guardi, io non credo che si voglia fare propaganda, è semplicemente una uscita infelice. Vorrei ribadire a tutti i costi che si fa campagna, anzi battaglia, una profonda guerra nei confronti dell'Islam, e che abbia voluto ribadire molto questo. Io spero che non servano questi mezzucoli per racimolare voti di una parte dell'elettorato, però mi sembra che sia completamente, come lei giustamente diceva, veramente assurdo che si muovano simili obiezioni nei confronti di una persona che non si sa che cosa faccia, che di che religione sia e che movimento politico sia. L'altra cosa che mi domanda. Ma io credo che non si debba nemmeno porre la discussione se quella che fa le pulizie, poi non è casa sua in realtà. Insomma, esatto, ma poi una cosa che mi domandavo, ma cosa c'è di questo forse è ignoranza mia, ma cosa c'è da tenere nascosto in una sede di partito? Quando in teoria dovrebbe rappresentare l'idea di quel partito, quindi non ci sarebbe per me nulla da nascondere, nulla di privato. Mi spaventa che un partito debba nascondere qualcosa. Ma no, ma in questo caso credo che Savoy si riferisse alla corrispondenza, ma insomma ormai la carta non si usa più, per cui se c'è qualcosa è nel computer, mi sembra tutto molto, molto folle. Ringrazio Francesco da Roma. Pronto, buonasera. Buonasera, mi dica. Senta, io volevo semplicemente fare una riflessione sui body scanner. Come al solito mi sembra una decisione che in Italia abbiamo preso sull'onda dell'emotività. Mm. Questo, innanzitutto ho dei seri dubbi e ne parlo, diciamo, avendo esperienza di cosa si tratta. Hanno diciamo un'efficacia che non è ovviamente provata, ma poi c'è un discorso: in Europa su 27 paesi 24 non lo applicano semplicemente perché nutrono dei dubbi su quella che sono gli effetti sulla salute umana. Adesso, ammesso che ammesso che abbiano un minimo di efficacia o comunque possano garantire. Guarda, comunque non mi risulta che 24 paesi su 27 non li utilizzano, come dice lei, perché ci sono dei dubbi sulla natura, sulla salute. Francamente. Hanno parlato di problematiche connesse alla privacy e alla salute. Comunque, a prescindere da ciò, nell'eventualità in cui dovesse venire fuori da qui a 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, per effetto della per effetto magari di un'indagine condotta dalla Comunità Europea, l'inefficacia o l'efficacia molto parziale, e mi riferisco poi, tra l'altro faccio un parallelismo col discorso del vaccino sull'H1N1, sì. Ma che cosa facciamo? Cioè, ma mi sembra veramente folle un discorso. Ma infatti sono in Italia, per esempio, ci sarà una sperimentazione. Perfetto, una sperimentazione, allora, fra 3 mesi in alcuni aeroporti, ma sulla pelle. Perfetto. Guardi, dal punto di vista della salute, le cose che ho letto sono assolutamente rassicuranti, adesso non bisogna nemmeno fare allarmismo su questo. No, ma io non sono completamente convinto di ciò, comunque a prescindere da questo. Beh, ma da questo punto di vista ci daranno le sicurezze gli organismi preposti, no? Infatti, i quali ovviamente l'efficacia la verificano a babbo morto, cioè il problema è non sono stati sperimentati, la sperimentazione viene fatta sulla gente, non vengono condotti esperimenti di altra natura o comunque degli esperimenti preventivi su cavie o che ne so, su altre cose, si applica direttamente sulle persone. Bah. Quindi mi sembra un attimino un controsenso. E se poi dovesse eventualmente, a prescindere dal fatto che mi dire che sono veramente scettico sull'efficacia di questo tipo, insomma, perché poi torno a dire, le parlo con cognizione di causa. Se invece si dovesse scoprire che sono nocivi per la salute, sarà troppo tardi, secondo lei? Guardi, sarà troppo tardi, ma ci saranno delle persone che comunque avranno subito un certo danno. Va bene, Francesco, la ringrazio. Abbiamo chiuso per questa sera. La Zanzara è radio24.it. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. La Zanzara.